è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nel... Non sono pazzo, non sono pazzo. Ho iniziato così perché ieri... Partiamo con una cosa un po' diversa, caro Parenzo. Ieri, ma perché Toto Cotugno? Aspetta, maestro? aspetta. Ieri il segretario del Partito Democratico, che ha detto una cosa interessante sui matrimoni gay, ha detto: prenderemo il modello tedesco, Dunque, un passo avanti, lo riconosciamo. Dopo le pressioni della Zanzara? Beh, adesso non esageriamo. Insomma, sì, le pressioni. Sì, siamo stati noi. Siamo stati noi, dici? Comunque, magari abbiamo contribuito. In ogni caso, il segretario del Partito Democratico Bersani ha detto: se non avessi fatto politica, avrei fatto il cantante. Sentiamolo. Ma ci sono delle occasioni in cui lei penserebbe ad altro? Di fare altre cose? Alla grande, ci penso spesso, lasciando andare un po' la fantasia ci si riposa anche un attimo, poi si torna sul pezzo. Ma saprei cosa fare se non facessi il segretario. E non ce lo dice? Sei o sette cose potrei fare diverse. Un paio. Da questo. Cantare, che bello. Beh, che bello. Adesso l'intervistatore alla Festa dell'Unità mi sembrava un po' troppo entusiasta, però noi abbiamo ripescato, cari ascoltatori della Zanzara, noi non ci sfugge niente, abbiamo ripescato un Bersani canterino, un pugno in una carezza del 2009, quasi 3 anni fa. Sentite, io poi l'ho visto dal vivo, anche tu l'hai visto dal vivo Bersani che canta una volta, Come Beh, no, una cosa a Iseo è a Iseo Lago, una aspetta, cosa aspetta, della Fiorletta. Aspetta, sentiamo Bersani. A mezzanotte sai. Beh, da rivedere, da rivedere Bersani canterino, da rivedere. Sei mia. La sobrietà del signor Di Pietro, Monti Becchino. Cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembra il governo Monti né più né meno che un Becchino che sta vivendo sulla morte della società italiana. Adesso il signor Bianconi, deputato del PDL, Bianconi questa mattina da Alessandro Milan. Bianconi molto simpatico, però hanno dimezzato i soldi per i partiti, per i terremotati, ma non andava fatto. Come pago i soldi ai dipendenti del PDL? Chi se ne frega, Bianconi? Chi se ne frega? Licenziali! Licenziali questi funzionari di partito, mandali via! Hanno fatto una cosa che secondo me non ha proprio precedenti di buon senso. Cioè dimezzare i budget nell'anno in corso. Ma scusi, il dimezzamento per dare i soldi ai terremotati? Io devo dare i soldi ai terremotati e contemporaneamente devo mandare a casa la metà di quelli che ho assunti in tutta Italia, quindi do a 110 famiglie la buona notizia che per dare i soldi ai terremotati non mi portano più lo stipendio a casa. E poi la singolare teoria sulle scorte: è meglio che ne ammazzino uno solo che 5 o 6, cioè bisogna togliere le scorte, così al massimo ne ammazzano uno solo. Non ho capito bene, comunque Bianconi un mito, sentiamo. Io ne ho avute tante in vita mia di minacce, e una volta me la volevano mettere, li mandai via. Voglio dire, se ne devono ammazzare uno, meglio che ne ammazzino uno solo invece che 5-6, sono del tutto inutili. È diventata un pugno chiuso, sai, cattivo. Boccia contro Brunetta. Sentite, sentite. Spettacolare a Omnibus questa mattina. Boccia, responsabile, no, non è responsabile nulla, insomma. Deputato del Partito Democratico contro Brunetta, che conoscete tutti. Il 97-98% di questo casino, se non definibile bordello, è targato centrodestra. Ora mettiamo da parte. No, poi mi racconterà chi ha governato la Sicilia in questi vent'anni. Però ora mettiamo da. Io ho fatto una polemica. Domanda: chi è al governo adesso? Siccome la tua domanda. Chi è al governo adesso? La tua domanda, almeno dillo. Siamo al governo facciamo cadere Lombardo domani. Dillo così. Mi dispiace. Dopodiché, per la storia, andiamo a trovarci le responsabilità. Ma dillo almeno che i spettatori sappiano: stiamo governando noi, PD. In la Sicilia, no, mi dispiace, oggi non è così. Stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò. Beh, che una parte del Partito Democratico abbia appoggiato Lombardo è storia, che questa vergogna della Sicilia però sia opera di tutti i partiti, dal primo all'ultimo, quelli che hanno governato negli ultimi 40 anni, è un'altra certezza. Ma qui non c'è... ma dillo, Brunetta, Renato, Grado Brunetta, e dillo, è cretino. Però scusa, bisogna dire una cosa: a cosa servono le elezioni in Sicilia? No, dillo tu chiaramente, a cosa servono le elezioni? Le Sicilia servono a eleggere. No, altri a cosa servono? Un cazzo, nulla. Non servono a nulla. Servono a eleggere altre, a nominare altre clientele. La Russa versus la Russa Ignazio versus Bianca Berlinguer. Chi lo conosce Volpe Pasini? Adesso non lo sono stato mai. E quando ne discuteremo nelle sedi di partito, senza i gossip, senza i Volpi Pasini, me lo consenta. Siete andati veramente a raschiare il fondo che me lo lasci dire. Vabbè, no, adesso guardi, non le voglio replicare perché sennò finisce con la solita macchietta. Ma a parte noi che discuteremo. L'hanno sentito in molti Volpe Pasini, abbiamo anche precisato che ultimamente era un consigliere di Berlusconi. Ma no, Berlusconi ha detto di no. Adesso ultimamente quanti italiani conoscono Volpi Pasini? Abbiamo precisato che ultimamente è caduto un po' in disgrazia. Beh, adesso poi la Russa non è che può cascare dalle nuvole, cioè Volpi Pasini eccetera, è uno vicino a Berlusconi, sarà consulente, sarà segretario, non so che cosa, è uno vicino a Berlusconi che è stato, ha frequentato Berlusconi nell'ultimo anno, non è che può cascare dalle nuvole adesso il signor la Russa. No, ma questi non hanno ancora capito come funziona a casa del principe, A casa del principe funziona che c'è il re e il re si circonda delle persone che preferisce, poi ogni tanto le manda a morte, metaforicamente vuol dire le manda via, e altri li prende, è così, ma perché scoprono ora? Aspetta, Filippo Facci, più grave la Carfagna della Minetti. Innanzitutto vorrei sapere dove diavolo ti trovi, perché si sente un rumore di sottofondo pazzesco. Facci, più... ma non me ne frega niente, stai fermo a casa da qualche parte. Più grave la non me ne frega niente, non devi essere a casa per strada a quest'ora. Più grave la Carfagna della Minetti. Non è quanto di più grave è stato fatto, cioè per me il caso Carfagna, il mitico caso Carfagna, rimane il più emblematico. A mezzanotte sai. Lidia Ravera, povera Minetti, cacciata dal paradiso. Io le dico povera Minetti, nel senso che è una pura funzione, viene scaricata con grande evidenza, con gran pompa, perché adesso serve questo, dopo aver fatto la capoclasse del gruppo delle signorine che si dovevano occupare dei piccoli piaceri dell'ex Presidente del Consiglio, adesso invece improvvisamente c'è la cacciata dal paradiso. Non so se avete sentito il passaggio iniziale, viene cacciata con Parenzo, con gran pompa, ma vuol dire dice in gran pompa, tra l'altro viene cacciata, si dice sì, anche in pompa magna, che o in pompa magna è meglio, sì, in pompa, e non diciamo niente. Senti quest'ultima sortita di Lombardo invece: andate tutti a morire ammazzati, non è una bellissima cosa da parte del signor Lombardo, no, aspetta, rivolto allo bello e anche a Roma genericamente, insomma a quelli che lo vogliono far fuori, non so a chi, sentiamo. Se lor signori da Roma o qualche pseudo industriale pretende che io licenzi questa gente o la ammazzi, vada al diavolo, vada a morire ammazzato chi che sia. Io non metto sulla strada questa gente. Questo l'aveva già detto a noi Lombardo, non licenzio nessuno se anche potessi, no? Il problema qui non è licenziare, anche se si dovrebbe naturalmente, licenziare un sacco di gente in Sicilia, è che le elezioni non servono a niente, bisogna fare un commissario straordinario per 5 anni, una sorta di prefetto, qualcuno che intervenga per 5 anni in maniera emergenziale e che faccia dei provvedimenti d'urgenza senza mediare, senza fare nulla. Si sa dove sono le toppe, si sa dove sono le falle, si sa dove sono gli sprechi. Non vogliamo più pagare né al nord né al sud. La Lega dice il nord non vuole più pagare, ma nessuno vuole più pagare, né a Roma né da un'altra parte. I primi devono essere i siciliani ad andare sotto Palazzo d'Orléans e assediare Palazzo d'Orléans. Ma non si sente niente. Mettiti in un luogo fermo, non si sente nulla. Simone da Roma. Buonasera dottor Cruciani, buonasera dottor Parenzo. Dica. Io vorrei semplicemente portare la mia testimonianza alla vostra trasmissione. Io non farei ironia su Bersani cantante. No, ma non abbiamo fatto nessuna ironia, attenzione, non abbiamo fatto alcuna ironia. Cioè... No, però io sono stato testimone alle elezioni del comune di Piacenza di qualche anno fa di un'esibizione di Bersani assieme al vincitore Reggi sul palco, che era una cosa veramente molto molto interessante, molto ben fatta, quindi potrebbe essere veramente una strada percorribile per Bersani. Quindi non prenderei. Cioè lei dice che è un bravo cantante, è un bravo cantante. Posso, il mio gusto personale, quando si esibì in tutta mia la città, fece un'esibizione padroneggiando anche il palcoscenico e il microfono. In un... A mezzanotte sai che io ti penserò. Prima di mezzanotte è spuntata Daniela Santanchè con noi, buonasera. Buonasera a voi e a tutti. Dove si trova che c'è casino? Con comodo, eh? Sono a Roma, ma sto facendo delle scale. Forse sono i tacchi che sbattono sui gradini. Eh beh, che i tacchi, i tacchi. Eccita, che te... Ma perché ti ecciti per i tacchi di Daniela Santanchè? Parenzo, ogni volta è così, ogni volta, mamma mia. Lì dice che si eccita per i... Quanto sono alti questi tacchi, signora Santanchè, scusi? Ma sono le mie armi di combattimento, saranno un 10 centimetri, 8 centimetri, 10. Capito Parenzo, li vorresti avere sul tuo petto, di la verità, sul tuo schiacciati sul ma tuo petto. Ma completamente, ma l'immagine agghiacciante però. Ma chi è agghiacciante? Perché agghiacciante? Ma neanche nel migliore dei sogni, Parenzino, ma anche nel migliore dei sogni. Mica il testi, Santanchè, mica il testi con i suoi tacchi. Guarda che per avere uno schiavo bisogna prima sottometterci. Beh, è vero. Non è che a lei piacciono queste cose, la Santanchè, no? Queste cose di sadomasochismo, no? Per carità, no, assolutamente. No, infatti, no, io non me lo immagino. Una volta l'abbiamo chiamata mentre faceva il risotto, sarebbe effettivamente una così, un'altra storia. Senta, ma la signora si può fare il risotto e utilizzare le manette, ad esempio, non vedo contraddittori. Tu ne sei un esempio strepitoso. Ma io che c'entro, scusa, spiegami. Tu usi le manette. Vabbè, passiamo ad altro. Io non ho mai, non ho mai, una passione. No, non è passione, non ho mai usato le manette in vita mia, odio queste cose. Comunque, no, però grande rispetto. Ma perché la Minetti resiste, secondo lei? Daniela ma Santa... secondo voi non se ne è già parlato troppo? No. Il nostro... Io vorrei evitare di parlarne. Io ho già detto quello che dovevo dire, però mi appassionano, voglio dire, le battaglie politiche. Ma questa è una grande battaglia politica, questa qua. Ma io dico che, guardi, abbiamo già parlato troppo, onestamente. Sì. Quello che dovevo dire l'ho detto. Sì. Ecco, ma perché resiste? Cioè, c'è una trattativa in corso? Ma io credo di no, ma è un problema suo, cioè la cosa a me non interessa, io ho detto le mie idee, non do giudizi su nessuno. D'accordo. Perché la trovo la cosa più orribile. Ma prima se ne va meglio è? Prima se ne va meglio è? No, ma io credo che sia un problema suo. Non è un questo l'ha detto anche mio. Alfano, non c'è dubbio. Suo, vostro. Beh, vostro, qualcuno l'ha posto sul terreno. L'avete posto voi il problema. Cioè, non è che non è successo niente di ma nuovo. Guardi, ma a me non sembra che l'abbiamo posto noi, mi sembra che l'ha posto lei, che forse lei sta ritenendo più giusto di fare altro nella vita. Qua ma onestamente, a me non è che questa roba qua. Cioè, ma chi se ne frega? Cioè, un problema. Ma l'avete posto suo. Voi? Ma come, chi se ne... ma come si fa a ragionare così? No, scusi, però... No, abbiamo posto niente. Fa il consigliere regionale, se vuole dimettermi, cosa che io la troverei voglio dire, giusta. Sì. E se fossi lei, così farei. Perché? Il mio comportamento perché? Personale, perché avrei capito di non essere adatta alla politica. Non ha nessun tipo di colpa la signora, sì. Non ha fatto niente, sì. Sarà bravissima. In tanti altri in che cosa, per secondo esempio? Me questo non lo so, non la conosco abbastanza, non lo so, ma voglio dire, mi sembra che la politica non sia proprio cosa sua. Detto questo, sì. Poi siccome io faccio battaglie di libertà, sì. Lei può fare e comportarsi come meglio ritiene. Il mio è semplicemente una presa, un auspicio, poi dopo però voglio dire, scusi un attimo, però se qualcuno ha posto questo problema significa che qualcuno, ma io credo che il problema l'abbia posto lei. No, qualcuno no, le ha chiesto Alfano Berlusconi, qualcuno l'ha. Qualcuno ha posto il problema delle dimissioni della Minetti per una questione di immagine. Ma noi non sappiamo. No, io credo che invece sia avvenuto proprio l'esatto contrario. Cioè, la Minetti che si vuole. È la Minetti che ha posto il problema delle sue dimissioni. Io credo che proprio nasca così la questione. Cioè, che lei vuole dimettersi perché ha capito a un certo punto che vuole togliersi la dimissione. Ma non è esattamente così. Nessuno di noi l'ha posto il problema. Lei ha sollevato. Come dire, una sua decisione, sì, sì. E quindi non è che è stato posto da noi il problema. Senta, è stato posto da lei. Ho capito, ma secondo lei, anche siccome il Partito Democratico comunque ironizza su queste cose eccetera, anche nel Partito Democratico ci sono dei casi Minetti, delle Minetti anche nel PD? Guardi, questo non lo so, ma a me, vede, non è che mi interessa molto. Io guardo in casa mia, mi interessa, sì, le cose che vengono fatte, trovare soluzioni per i problemi che sono, sì, ogni giorno più grandi di questo paese. Vabbè, anche oggi lo spread, c'è il governo Monti, ha fatto il suo 4,90, ha sfiorato, sì, i 500. Però concludendo, che gli italiani hanno pagato l'IMU un bel gettito di 9 miliardi, ma hanno smesso di fare la spesa. Infatti, sì, abbiamo meno 1,1 nel gettito di IVA, sì, che quindi vuol dire che hanno consumato, sì, meno. Mi interessa questo. Sì. Poi il gossip. Ma non è dire, gossip, è politica, non è l'Istat. È politica, ma come vede, io non mi sottraggo a rispondere. No, a assolutamente. Decisioni. Assolutamente. Faccio delle mie. Senta, ma Berlusconi, io voglio capire una cosa: Berlusconi ha sbagliato a candidarla all'epoca? Questo si può dire ormai che fu un errore candidarla? Sì, secondo me era meglio non candidarla. Dunque, Berlusconi ha sbagliato. Berlusconi ha sbagliato. No, Berlusconi ha sbagliato a candidarla, ma non c'è niente di strano. Come eravate voi? Dico, secondo me era opportuno non candidarla. Mi sembra. Alla e come luce... eravate? Scusi, che io Parenzo... non ero in consiglio regionale, se vuole Parenzo mi prendo anche questa responsabilità, però voglio dire, se la lei fa piacere me la prendo. Me la prendo, ma voglio dire, non credo di avere. Non è che ha deciso la Santa Anche, non è che ha deciso la Santa Anche, con tutto Parenzo. Poi bisognerebbe avere il senno di poi, la storia non si fa né con i se né con i ma. E quindi voglio dire, poi vedendo, ma penso che lei stessa lo ritenga, e quindi dico. O forse. Ma secondo lei ha fatto troppi servizi, cioè troppo in vista da questo punto di vista, si faceva vedere troppo con le scollature, con i servizi fotografici. No, ma guardi, non c'entrano niente. Non c'entra niente. Non giudichiamo questo. Le donne. No, per carità. Le scollature, no. Perché altrimenti torniamo indietro di troppo tempo. No, assolutamente. Giudichiamole per le loro azioni, per le loro battaglie. Però una volta lei la difese, disse anche che nel vecchio Partito Comunista, o comunque anche a sinistra, c'erano casi di persone messe lì, insomma, fece quell'esempio. Ma non è che l'ho difesa, ho detto che tutto mondo e paese, tutti i periodi hanno, voglio dire, ci sono state donne politiche con relazioni, avevo, sì, fatto l'esempio. L'esempio di Nilda Iotti, sì. Sì, ma esatto, della Iotti, ma non mi sembra di aver detto una cosa. No, ma al di là di ancora. Questo, al di là di questo, lei una volta la difesa, adesso poi ha detto non, no, è adatta a far politica. Difesa è una, io ho detto semplicemente, come capita tutti i giorni, sì, che gli italiani non credono più alla politica perché ci sono sempre due pesi e due misure, sì. E oggi stiamo vivendo proprio questo, perché Napolitano, ad esempio, ha sollevato, sì, il conflitto delle intercettazioni. Sì. Ha fatto bene? Perché, ha fatto bene? Allora, io voglio dire, ma come mai quando intercettavano illegalmente Silvio, sì, Berlusconi, nessuno, sì, diceva una parola, e adesso, siccome è intercettato il Presidente della Repubblica, sì, viene fuori questo caso? Cioè, Napolitano è un po' ipocrita da questo punto di vista, non ha mai detto ma una parola. Ma perché io devo vivere in un paese che se c'è una persona di centrodestra che, sì, fa una cosa deve essere giudicata in una certa maniera, se una persona che è del centro-sinistra invece è tutto... Ma chi è ipocrita in questo caso? Anche Napolitano stesso che non ha detto una parola su guardi, Berlusconi? Non si tratta di ipocrisia, Giulia, si tratta di prendere atto delle cose, perché vede, le intercettazioni sono un po' come il cancro. Se sentio uno di noi non prova che cos'è il cancro, non capisce la devastazione della malattia e la sofferenza. L'intercettazione, sin quando non toccano te stesso, ma toccano gli altri, magari pensi che possa essere uno strumento per far fuori un tuo avversario, un tuo nemico politico, ti fanno anche godere. Poi quando capisci però che tocca a te, allora ti incavoli. Beh, addirittura allora, come il cancro, però, signor Santanchè, mi sembra un po' esagerato come il cancro. Ma no, ma adesso faccio la rappresentazione plastica, ecco, non vi so fermate sulle cose. Come no? Ma volevo voglio dire di quello che sto dicendo. Ma le sembra giusto che gli italiani poi credano alla politica? Sì, ma allora, questo paese ci sono sempre due tesi, due allora, però Napolitano, però Napolitano che ha addirittura sollevato un conflitto di interessi e che secondo lei prima non ha detto nulla su Berlusconi, si è comportato in maniera ipocrita. In generale, la politica, no, gli nessuno ha detto niente, intercettato il Presidente del Consiglio di tutti, e nessuno ha detto niente. Veniva intercettato illegalmente, illegalmente non si dà, illegalmente no. Si vuole l'autorizzazione delle Camere, ma cosa? Illegalmente perché non era stata chiesta l'autorizzazione alle Camere. Senta, Forza Italia alla fine si ritorna a Forza Italia o no? Perché voglio dire, al Tribunale di Milano le intercettazioni non sono state ammesse, illegalmente proprio per questo. Senta una cosa, non ho ancora capito se si ritorna a Forza Italia o no, perché poi Berlusconi è un po' corretto, a lei piace moltissimo questa possibilità. No, a me, guardi, quello che mi piace moltissimo è che si tornasse, voglio dire, poi io peraltro che non provengo da Forza Italia, lo spirito della rivoluzione liberale, che Forza Italia è stata la prima lista civica del paese. Ma insomma, il nome va bene, Forza Italia o no? È bello. Il nome va bene se è una questione di sentimento e di ragione. Sentimento, perché molti italiani sono legati a Forza Italia, che è stata veramente una cosa unica. Ma cos'è che è mancato? Cos'è che è mancato ad Alfano? Il quid, un po' è mancato qualcosa ad Alfano, dica la verità adesso, al di là delle diplomazie. Ma non c'entra che è mancato qualcosa ad Alfano, manca qualcosa a noi tutti, perché noi ci confrontiamo con una persona che si chiama Silvio Berlusconi e che non è proprio un personaggio comune. Cioè di fronte a Berlusconi per siamo tutti dei poveri stronzi, non l'ho capito. No, io non l'ho detto questo, però lei sa, con Parenzo vicino, ad esempio, è vita facile, no? Primeggiare, capisce quello che le voglio dire, perché non è facile. Però se anziché Parenzo ne avesse un altro, si dovrebbe misurare la palla, magari. Non c'è dubbio. Ecco, gli ho fatto un esempio, perché così l'ho calata su di lei, che capisce meglio. Ecco, no, com'è sta cosa? Se fosse accanto a qualcuno mi dovrei misurare la palla. È interessante. È un modo un po' meridionale di dire, no? Beh, bellissimo. E dunque Alfano dovrebbe, di fronte a Berlusconi, insomma, è uno che alla fine... questo lo dice lei è meraviglioso, guardi. A estorcere delle cose, o dare dei... Però Berlusconi inizia male. Ma non cado nella trappola. Stavolta non è caduto, va bene. Berlusconi ha iniziato subito dicendo che vuole abolire l'IMU ed Equitalia. Addirittura Equitalia, posso capire, l'IMU, dice, come la vecchia ICI, eccetera. Lo sai, Equitalia. Pure Equitalia. Se parlasse con tanti italiani che magari per non aver pagato una multa oggi si trovano più... Va bene, ma bisogna abolirla? Bisogna abolirla? Bisogna abolirla? Equitalia. L'Equitalia va organizzata... Zanzara Party di questa sera, 800 24 00 24. Siamo qui a combattere con David Parenzo, in collegamento da Padova. Sentiamo se è un collegamento precario oppure da buono. Roma, ma quale Padova? Mai bevuto? Da Roma, e a Roma sei in giro? No, sei in giro così per strada, dove sei? Ero prima alla 7, adesso sono per strada nella zona della 7, ramingo a cercare notizie. No, se è un lavoro che ci obbliga, ma di che parli? Ma che cosa stai dicendo? Ma perché non ti metti in un posto direttore? Ma perché non ti metti in un posto sicuro, adesso in un posto tranquillo? Un grande ospite, ma non me ne... Oddio mio. Un grandissimo ospite. Però voglio dire buonasera signora. Buonasera. Questa è la Zanzara. Lei sostiene il governo Monti, mi hanno detto, no signora? Sì, a me non mi interessa niente, ecco. Tanto sono tutti magnacci, magnoni e ladri. Ecco, lei è un'elettrice convinta quindi di questo nuovo assetto istituzionale? No, non mi interessa, guarda. Allora, abbiamo appena sentito la testimonianza di una persona convinta che in questa fase drammatica del paese ci sia bisogno di un governo tecnico. Adesso le grandi inchieste, devo dire, no? Che però, guarda, ero talmente arrabbiato che le parole di questa signora, queste tre parole, mi hanno hanno rivalutato la tua presenza per strada. Sì. Cioè, solo queste tre parole pronunciate dalla signora, che adesso mi ritaglierà la regia, queste tre parole di questa signora mi hanno messo di buon umore. Perché bisogna sceglierle le persone, bisogna capire. Allora, io vuoi dire solo una cosa e poi me ne vado, che così tu fai la trasmissione tranquilla. No, non te ne andare, non te ne andare. Dimmi. No, dico alla signora Santanché, che è ancora collegata. Cara Daniela, ti avverto che è ancora collegata, così tanto per dire. Cara Santanché, io se mi considero mi deprimo, mi paragono mi esalto però. Non ho capito, se mi considero? Mi deprimo. Se mi paragono mi esalto. Ha capito? Santa Che? No, non ho capito la seconda frase. Ha detto se mi paragono, se mi... No, mi considero, vuoi impararla anche tu. Se mi considero mi deprimo, se mi paragono mi esalto. Era se mi confronto mi esalto, ha sbagliato. Se mi confronto mi esalto. È uguale, era per la questione di Alfano che non avrebbe le palle, secondo la Santa Che, è vero? Esatto. No, io non ho mai detto questo, mai lo dirò perché è il mio segretario politico e quindi mai direi una frase del genere. Il popolo della libertà, un giudizio che non è il mio. Ma scusi, no, io non ho detto questo, però scusi, è mancato qualcosa. Allora? No, vabbè, ma non è il mio giudizio. Io dico, io non do giudizi così tranchant, però è uno che gli è mancato un po' di carisma al momento giusto, no? Questo io bisogna credo dirlo. Anche che sia arrivato in un momento di così difficoltà del paese, di tutto quanto, che voglio dire, Alfano ha fatto tutto quello col massimo impegno, il massimo della volontà e della dedizione. Lei dice, eh? Vabbè, i titoli del TG3, torniamo subito. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Sarebbe stata liberata in Mali la cooperante italiana Rossella Uro, conferme anche dalla stampa spagnola, ma manca ancora la notizia ufficiale. Incontro Napolitano Monti su Sicilia e decreti economici. Il governo studia contromisure per la speculazione. Grilli sulla crisi e risposte europee insufficienti. Dopo decenni di sprechi, la Sicilia vicina al crack. Il governatore Lombardo annuncia il rischio di fallimento. No al commissario. Casini, evitare il contagio. Dalla Procura di Palermo nuove accuse per Dell'Utri, estorsione nei confronti di Berlusconi per la vendita di una villa. Convocata Marina, la figlia dell'ex presidente del Consiglio. Di nuovo polemica fra PD e Italia dei Valori sul ruolo del Quirinale. Di Pietro, il Colle cerca di nascondere la verità. Bersani, attacchi indecenti. La Siria sprofonda nella guerra civile, attacco kamikaze a Damasco, uccisi due ministri del regime di Assad. L'ONU discute, ma la Russia ferma il voto. Gravissimo attentato in Bulgaria contro un autobus di turisti israeliani, un'esplosione, forse un kamikaze, ha provocato 7 morti e una ventina di feriti. Beh, io quando sento questa canzone mi metto di buon umore, perché tutto ricomincia, e devo dire che per noi, onorevole Santanchè, per noi è un gran divertimento, su questo non ci sono dubbi, però per noi è iniziata una nuova epoca, siamo anche più frizzanti da quando Berlusconi ha annunciato che torna, perché lei sa, insomma, l'uomo regala. È come andare al circo ogni giorno. Lei pensi ai giornali tipo Il Fatto, che avevano perso le copie da quando non c'era più Berlusconi, che hanno fatto? Che regali che fa Berlusconi. Ha capito, adesso che torna a candidarsi premier acquisteranno altre copie, cioè è proprio un bene che fa bene a tutti. Cioè hanno stappato, è un bene che, cioè, Berlusconi che torna in campo e pensa a tutti quelli che si reggono soltanto nella guerra al nemico. Sì. E se non c'è più nemico sono bei problemi, per non usare altre parole, No, avevano usiamole. Perso il nemico numero uno, adesso ritorna il nemico e voi godete. Noi non siamo come il fatto. Dicevo Parenzo gode. Parenzo forse gode, l'unico modo per farlo godere. Questo è buono, caro Parenzo, l'unico modo per farti godere è il ritorno di Berlusconi, dice la Santa, che secondo me siamo ancora in fascia protetta. Dopo le 20:45 dico come godo, però. No, dopo le 20:45 siamo ancora in fascia protetta. La verità, Parenzo, che quando ha saputo che Berlusconi è il nostro candidato premier, bell'orgasmo ce l'ha avuto. Solo? Ce l'ha avuto l'orgasmo o no, Parenzo? Uno continuato perché dura ancora. Anche per te è stipendio assicurato. Esatto, è questo il punto, che bisogna ringraziarlo. No, cioè, mi dispiace un po' per i giornali. È la signora Sallusti, non so se conosce Sallusti, ma non ho capito chi. No, dice, mi dispiace per il giornale diretto dal signor Sallusti, no? Diceva Parenzo, perché? Sì, perché se torna Berlusconi saranno costretti a fare. Beh, io mi ricordo quando c'era Prodi, c'erano dei titoli meravigliosi, no? E adesso sarà in difficoltà, perché col ritorno di Berlusca. insomma. Non capisco, se parli come mangia, non capisco. È molto semplice, tornando Berlusconi, diciamo che il giornale non potrà fare grande battaglia. Ma come no? Cioè, ci sono tutti gli altri con cui combattere, che dici? Dovrà stare più, dare più spazio, no? Agli uomini fedeli, a quelli che sono... Però scusi, la cosa importante, secondo lei, Santanchè, dunque Berlusconi tornando in campo salva lo stipendio a un sacco di gente? Ma tantissima gente. E mi auguro che quelli che prendono lo stipendio, non sono d'accordo col Silvio Berlusconi, abbiano almeno la dignità e la decenza di andarsene. Cioè chi, per esempio? No, chi, ma guarda che nella vita bisogna parlare di principi, non di persone. E dunque, no, c'è un sacco di gente che, voglio dire, prende lo stipendio da Berlusconi e poi critica Berlusconi. Per esempio? Mollassero anche lo stipendio. Per esempio chi? Ma per esempio chi? Faccio mica il magistrato. No, chi prende lo stipendio? A rappresentare un concetto. No, ma ho capito, però mi ha incuriosito. Cioè, chi è che prende lo stipendio da Berlusconi e lo critica e invece... Ma la curiosità è femmina, lei è così maschio che queste curiosità non dovrebbe avere. Allora lo dica a me, che sono più femmina di Cruciani. scusi, io vorrei capire, se c'è un sacco di gente che prende lo stipendio di Berlusconi e lo critica, ma dove? A Mediaset? No, ovunque, ce n'è in tutta Italia, Italia, che non hanno nemmeno la coerenza, cioè sputano nel piatto dove mangiano, e sarebbe bene che comprassero il cibo da altre parti, un po' di coerenza nella vita. Ma per esempio, mi faccio un esempio però. Mi autodenuncio, ad esempio. Su che cosa? Non hai mai preso lo stipendio da Berlusconi? Non lo prendi tu? Con orgoglio, certo, panorama.it. Vabbè, ma quella è una parte dello stipendio, che vuol dire? Anche certo. Quello sarebbe bene che Parenzo rinunciasse. Dovresti rinunciare, sì, Parenzo. Dovresti rinunciare. Per niente, perché è un ottimo editore, ma un pessimo politico, ma è talmente liberale che va a scrivere chiunque. Ah, bravo, lo dice bene. Ma non lo scopro oggi. È l'unica cosa giusta che non ho mai sentito dire. Ma ho detto anni. Sempre che è un ottimo imprenditore, ma un pessimo politico. Lo dico da vedete, lo dico come da sono stato anni. Elegante, manco facevo il suo nome, Parenzo. Scusi, però, Santa, che io voglio capire una cosa. Per esempio, Mediaset è pieno di anti-berlusconiani, secondo lei? Insomma, ma sono sparsi ovunque, come no, sono sparsi, mi dica, su Mediaset. Quelli che invece avevano paura di non prendere più lo stipendio perché non avevano più il nemico per lo scopo. È quello sicuro, è quello che sappiamo. Ce ne sono tanti, ma ce ne tanti da una parte e dall'altra. Che ne so, Mondadori è piena di comunisti, no? Ma io non lo so, guarda, io non frequento, non lo so, però il sentire, il percepito, no? Sì. Di tanta gente che lo critica, però poi tutti i mesi va lì e incassa. Devono sapere che dietro quegli euro c'è una bella SB, Silvio Berlusconi. C'è un sacco di gente che dovrebbe sapere. Allora, un'ultima cosa, le voglio chiedere, quando lei qualche giorno fa ha detto è finita l'epoca delle Minetti, dunque evidentemente la Minetti non ce n'è una sola, quante sono le Minetti nel PDL? Però adesso no, qui no, non è che lo dicevo nel panorama politico. Appunto, ma ci sono la del PDL. Ci sono altre Minetti, allora, evidentemente. Ma ce ne saranno, ma poi guardi, voglio dire, non deve neanche diventare il capo espiatorio, onestamente. A me tutta sta roba qua sulla Minetti, gliel'ho detto, non mi appassiona. Ecco, una donna che resiste, che la vogliono, cioè vuol dire che resiste là e affronta i giornalisti che la tempestano di telefonate, di flash e che non si vuole dimettere, ma non le fa. No, non le ispira un po' di simpatia a lei? Ma guarda che a me non mi è assolutamente antipatica, nella maniera più assoluta, non ho antipatia, a parte che non la conosco bene, perché l'ho vista poche volte nella mia vita. E perché l'avete scaricata allora? No, ha detto che non l'hanno scaricata. Confrontata, ho parlato a lungo per poter darne un giudizio, a parte che non mi piace dare giudizi, ma non mi è assolutamente antipatica. Però lei dovrebbe piacere una persona che combatte lì, non è che si arrende subito, no? O no? No, sta no, trattando e basta. Dico, sta trattando no, e basta. Per me assolutamente, perché non c'è niente da fare. Guardi, lo sanno tutti, sta trattando un sacco di cose. Tra l'altro oggi è arrivata fuori la notizia che è diventata testimonial di un'azienda di braccialetti famosa, non faccio il nome, che vagamente ricorda il mio, vagamente. Vabbè, a questo punto scusa. No, che ho detto vagamente, che... ricordo il mio, però pare che sia diventata così, leggo da qualche parte, testimonial di una marca. Dunque ormai sta pensando. Quindi che sta pensando di fare altro nella vita. No, su questo non quindi c'è dubbio. Non è un problema nostro di sollevare un caso. No, e lei no. Si penserà che è più brava a fare altre cose. Avrà sicuramente, e ve lo auguro, un grandissimo successo. Come auguro successo a tutte le donne quando fanno le loro cose basandosi sulle loro capacità Va bene. E sul merito. L'abbraccio, a presto. A presto, mi saluti Parenzo se lo vede. Sì, quando lo vedo, cara. Qui è per strada. Rimandatemi il pezzo sulla signora, sulla cosa, ce l'avete già. Lo stipendio di Mondadori.it. Ecco, brava, beh, iniziamo questa campagna, iniziamo questa campagna, sa che Parenzo molla lo stipendio di Panorama.it perché... Ma non ci penso minimamente a farmi fottere. Ma dici delle cose tremende su Berlusconi, quei soldi che ti arrivano sono targati SB, dunque sia chiaro. Sono targati SB. Io l'esempio, voglio dire, proprio non si può sputare in faccia a chi ti fa mangiare tutti i giorni. Esatto. Ma io che umanamente non è bello come è una grande azienda, è una grande azienda. Guarda, Parenzo, io le vorrò un sacco di bene. Quando lei mollerà quei soldi lì, ecco, molla quei soldi. Ma io non solo... che si parla di etica, si esatto. E allora non diamo del tu agli altri e facciamo noi stessi per prima. Ma cosa. Di che cosa parla? Molli quei soldi lì e diventa un gigante, diventa alto 2,10 metri, diventa il più bello del mondo, il più sexy, il più affascinante. Ma io la fai, molla, guardi, quei soldi sono targati SB, tu hai detto delle peggio cose su Berlusconi, molla. Mi capisce, no? Che su ogni euro c'è scritto SB. Ma come fa a tenerli nel portafoglio? Grazie. Sono unti. Sono unti, non dal signore, però, sì, da Berlusconi. Andate a farvi. No, l'hai già detto. Questa, guarda, diventerà il tormentone mio dell'estate. Parenzo, molli quell'euro che sono scritti SB. Non li può tenere, a lei gli fanno schifo. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 0024. Una buonissima notizia appena arrivata, caro Parenzo, l'ufficialità. Una notizia che ci rende felici, diciamola tutta. Cioè? La liberazione di Rossella Urlo. La liberazione, la liberazione della cooperante, l'ufficialità data dal ministro degli esteri Terzi. Bene, alle 19.33, importante questa cosa, eh? Paolo dalla provincia di Lecco. Paolo, io buonasera. Intanto dico... Che c'è? Che è successo? Intanto che è successo? Io non so che bisogna sposare la battaglia Tibet libero. Ma che c'entra adesso? Paolo dalla provincia di Lecco, su. Al Dalai Lama, Tibet libero. Dai. Expo 2000. Ma chi se ne frega? Paolo dalla provincia di Lecco, su, basta Tibet con queste buffonate. Libero. Ma è impazzito? Ti ha dato la testa qualcosa stasera? Ti ha dato la testa qualcosa? Sei in grave deficit creativo. Paolo dalla provincia di Lecco. Tibet libero. Senta. Buonasera, dottor Cosciani. Sì, vada veloce. Allora, rapidamente, siete divertenti anche quando parlate di cose serie e semiserie. E comunque l'argomento è questo, l'omosessualità che fa capolino quasi ogni sera alla sua trasmissione. Sì, sì, e ne sono orgoglioso, caro Paolo, ne sono molto orgoglioso di questa Benissimo. Cosa. Benissimo. Io volevo soltanto fare una considerazione e un invito, molto rapido. Sì. Cioè, la mia considerazione è... che essendo l'omosessualità una condizione patologica riconosciuta da studiosi, ma chi l'ha detta questa cosa? Quali Freud, Jung e Adler. Va bene, allora dice, ma che ne so, questo? È una patologia, è un altro folle. Paolo, dica. No, non sono un folle. Senti, caro Cocciani, che ti stimo. Allora, gli studiosi hanno detto questo. Ma non è vero. Comunque. In 75 anni nessuno ha dimostrato scientificamente che non è una patologia. Poi aggiungo... Va bene, poi Paolo, andiamo al sodo però. Secondo lei è una patologia, allora? Sì, se fosse un qualcosa derivante in natura, una cosa innata, allora noi possiamo normalizzarla. Cosa che invece tendono di fare certe lobby... Vabbè, parte. Allora Paolo, andiamo alla conclusione però. Alla conclusione arrivo, caro. E cioè l'invito è che lei, quando fa far capolino a queste discussioni, inviti qualche studioso. Sì, sicuro Paolo, non c'è dubbio. Studioso, ci stavo pensando, così si chiude la radio direttamente. Vogliamo chiudere la radio, vogliamo chiudere... Aspetti perché c'ho Cruciani. Che è successo, Parenzo? Paolo? La politica, la classe politica di questo paese. No, le piace? Non mi interessa. Non mi interessa. Berlusconi torna in campo. E chi torna in campo? Lei lo voterà? Non lo so. Ma lei per chi ha votato lei alle ultime elezioni, signora? Ma non si dice. Non si dice. No. E di Cruciani che pensa? Non mi interessa Cruciani, ancora meno. Vero. Personaggio. Sono tutti mascalzoni. Tutti. tutti. Non ce n'è uno buono. Se lei li mette in fila e prende un battaglione di soldati e li spara a tutti quanti, non fa un soldo di danno. È una vera moderata. Hanno mandato in rovina l'Italia. Ma chi? Chi? Tutti i papponi. Hai capito? Tutti i papponi. Ma è la stessa di prima, scusa. Beh, è solo è un'altra persona che abbiamo intervistato. Ma è davvero? È un'altra. Mi sto preoccupando. È la stessa di prima che è tornata. Però diciamo che come dice? È la verità. Certo. Sara da Trento, buonasera. Sara da Trento, buonasera. Allora, signor Cruciani, sì, pronto? Sì, sono fino a prova contraria. Mi lascia un secondo solo, guardi, devo leggere una letterina che deve scrivere Berlusconi. Però, siccome io una c'è volta un ascoltatore che scrive, un attimo solo. Sara, si fermi un attimo, però, un attimo solo. un tale Manlio, signor Manlio, mi scrive un SMS. Due orologi, perché ho due orologi, non mi sta vedendo evidentemente su TGCom 24. Due orologi e gli occhiali da sole in radio. Effettivamente ho degli occhiali da sole. Praticamente uno squilibrato. Un cappellino da Napoleone. Non lo mettiamo, un cappellino da Napoleone. Effettivamente bisognerebbe pensarci. Signor Cruciani, sì, mi dica. Sì. Guardi che io una volta mi sono avvicinata a lei e aveva emanava delle sue ascelle un odore di gelsomino, non di rosa, di gelsomino. Di gelsomino, sì. Beh, addirittura adesso. Era un odore di santità anche lei, Lei dice perché? Beh. Scusi. Perché sapeva di gelsomino, padre Pio sapeva di gelsomino. Vabbè, adesso non ci coglioni così, dai, su. No, ma ascolti, me la lasci leggere, guarda, due secondi. Sì, sì. Non sono capace di fare l'imitazione di Berlusconi perché sennò, guarda, sarebbe stato il massimo. Scusi, caro popolo italiano, io ho deciso di destinare una parte dei miei capitali, visto che sono l'uomo più ricco e generoso d'Italia, come ho dimostrato, un prestito infruttifero, come scrivono tutti i giornali, e a fondo perduto però, perché poi si pagano le tasse sull'infruttifero, per sanare una parte del debito pubblico. Vabbè. Ad un patto, Cruciani mi chieda, che patto? Qual è? Che io possa farmi un bello obelisco in piazza Venezia a Roma, più alto del Vittoriale e intitolare a me stesso, il cavaliere. Bene. Sara, era per questo che dovevo stare zitto. Adesso lei chiami le ambulanze. No, beh, adesso sono in una fase di emotivamente poco adatta all'ambulanza. Se questa trasmissione ha un pregio, è quella di far venire fuori tutti i casi clinici più significativi. Perché... signor Parenzo, lei dovrebbe essere contento di quello che sto dicendo, perché lei dimostra di essere molto ironico. Sì. Una volta che trova delle persone ironiche si arrabbia, non mi arrabbio per nulla, anzi. Guardi, c'è un altro messaggio. L'ambulanza, guardi, mi vado a riposare. No, ma non c'è nessuna ambulanza, Guardi, c'è un'altra cosa straordinaria che mi arriva via SMS oggi, visto che vi piacciono tanto gli omosessuali, uno secco, perché non andate a dar via il culo? Così. Un ascoltatore. Cioè, secco così, visto che vi piacciono tanto gli omosessuali, perché non andate a dar via il culo? Vabbè, ho capito. Ma signor Cruciani, comunque Sara, la ringrazio. Intanto quella di Mario di prima è eccezionale. Due orologi e gli occhiali da sole in radio, uno praticamente uno squilibrato, un cappellino da Napoleone, non lo mettiamo? Mallio. 800 24 00 24 è con noi il senatore Marcello Dell'Utri. Buonasera. Buonasera, eccoci qua. Come sta? Grande Dell'Utri. Come va? Sì, sono reduce dallo spettacolo di stamattina. Ecco, ma un'altra accusa nei suoi confronti, questa volta addirittura, che cosa avrebbe fatto a Berlusconi, senatore Dell'Utri? Che cosa avrei fatto? L'estorsione. L'estorsione, sì, questo è nella mente, certo, non del tutto sana di questi signori. Si fanno anche ipotesi allucinanti, io non so come... Non so come commentare, perché se ne parlo seriamente... Parli seriamente, lei ha dato anche del pazzo ad Ingroia oggi. Ma sì, ma certo che è pazzo, così non è che è normale. Non è normale. Lei dice che non è normale, Ma no, ma non può essere, ma è una cosa allucinante. Ma... Andrebbe ricoverato, dice Parenzo. No, ho detto che anch'io devo essere ricoverato, ho detto andiamo insieme, anch'io sono pazzo. Sono ancora qua ad aspettare la giustizia, quindi pazzi siamo in due, caro mio. Ma in questo caso la pazzia di Ingroia in cosa consisterebbe, in questa nuova accusa? No, quella è già di per sé, anche senza di questa. Ah, quella anche senza questa cosa nuova, eccetera. Ma questa è arrivata qui, insomma, all'eroina, sa, quando si arriva all'eroina, a forza di raffinare si arriva al massimo dell'effetto. Al massimo, cioè un drogato praticamente, dice lei. È al massimo dell'effetto, non è possibile, non è possibile. Cioè, pensare, solamente cercare di trovare il torbido in tutto, ma è veramente allucinante. Ma l'accusa quale sarebbe? Che lei avrebbe ricevuto 20 milioni di euro per una casa che vale di meno, giusto? E avrebbe per questo... 9 secondo alcune perizie, secondo lei invece 30, se non mi sbaglio. No, sono 30 perché io l'avevo già messa in vendita a quel prezzo. E quale sarebbe l'estorsione, in cosa consisterebbe? Nel fatto che grazie nel a questo... Nel fatto che ha comprato una casa a un valore minore di quello che vale, l'ha pagata meno, questa è un'estorsione. No, veramente non ha senso. No, perché praticamente in questo modo Berlusconi avrebbe, sempre secondo l'accusa, comprato il suo silenzio nelle vicende che riguardano la mafia o altre cose. Questa nella mentalità distorta e malata ci sta tutto, ci può essere. Ma perché ce l'hanno tanto con lei, senatore De Luti? È un'ossessione, una malattia, che è una cosa che c'è nel cervello? Cos'è questa roba? Ma lei se la spiega, io no. Che ne so, se non se la spiega lei, no, guardi, io non me la spiego, perché se me la spiegassi non sarebbe una pazzia, ci sarebbe la logica. Con la logica si spiegano tutto, ma qui non c'è logica, non c'è niente, c'è soltanto un discorso di persecuzione politica. Io l'ho detto chiaro, questo fatto a me è un processo politico, ovviamente anche per impedire al presidente Berlusconi di svolgere le sue funzioni. Adesso ha detto che vuole ritornare in campo, guai a dirlo, non deve farlo. Come non deve farlo, scusi? Non deve farlo, come si permette Berlusconi di dire che vuole farsi valutare ancora dall'elettorato? Ah, lei dice, nella mentalità dei magistrati, dice non deve farlo assolutamente. Non si deve permettere, come si permette Berlusconi? Ma lei gli consiglierebbe quindi di stare a casa sua, insomma? A Berlusconi, o invece no, combattere? Io non do consigli, io ricatto, che dice lei? Faccio estorsioni. No, ma scusi, ora che siamo al telefono con lei, io e Cruciani, ci danno il concorso esterno anche a noi, che succede? No, voi non siete degni di questo, perché non avete la patente intanto di siciliani, questa è una cosa importante. Cioè? Non siete siciliani, perché se io fossi nato a Busto Arsizio, come mi disse uno, non avrei tutto questo ambaradam addosso. Quindi voi siete fuori, state tranquilli, vi garantisco io. Che ne so, magari parliamo amichevolmente con lei e qualcuno dice siete troppo, no? Siete troppo sì, certo, ma questo è chiaro che potrebbe anche esserci. Che ne so, io ho un po' paura. Ma lei fa il suo mestiere. Come immagina, senatore De Luti, il futuro del dottor Ingro? Tra qualche anno, qualche anno, come se lo immagina lei? Questo è interessante. Questa è una bella domanda. Complimenti, perché io non lo immagino proprio. Qualche cosa immagino. Che ne so, lo vede in politica assiso tra i banchi di un partito? Questo non c'è bisogno che lo dica io, lo ha già praticamente detto lui. Quando uno magistrato, pubblico inquisitore, va a inaugurare i giornali della sinistra, va a presentare i libri della sinistra senza vergogna, e cosa vuole che possa fare? Certo, alla fine il suo finale potrebbe essere un'aula di Parlamento, non so se alla Camera, al Senato. Ma è scontato, dice lei, abbastanza scontatissimo. Scusi un attimo, però lei non si augura, per esempio, molte persone dicono dei loro nemici, no? Dicono mi auguro tutto il male possibile. Lei si augura qualcosa per il dottor Ingroia? No, mai, per carità, salute, gli auguro tanta salute, assolutamente. No, questo non riesco a odiare, è proprio più forte di me. A parte il fatto che odiando lei sa che ci si ammala, quando uno odia poi praticamente si nutre di una sorta di veleno e quindi non bisogna farlo comunque. Io già per carattere non lo so fare, ma farlo sarebbe sbagliato, perché è una sorta di dose di veleno che uno prende. Però Ingroia, per esempio, ha detto recentemente anche a noi che lui, se lo chiamano a parlare, che ne so, anche a un congresso del PDL, ci va. Per esempio, lo vedrebbe lei parlare di Costituzione a un congresso della Nuova Forza Italia? Sì. Cioè, invitiamo Ingroia a parlare? Che ne so. Lo inviti. Sarebbe una cosa shocking. Sì, ma se lui venisse io lo inviterei, ma non ci sono problemi. Anche sia veramente liberale. Certo, ma lei perché ragiona così? Ma no, ma lui è così, io credo che non sia neanche malafede, non so come dire, è proprio un fanatico, è un ayatollah, non lo vede anche com'è fisicamente. Com'è fisicamente? Ma che c'entra? Con la barba? Un ayatollah, sì, se si mette il caftano è perfetto. Cioè lei dice un persecutore come gli ayatollah, come i nisti? Sì, cioè, sì, sì, proprio era questo come sua forma mentis. E lì mandavano la gente a morire. Cioè, è un Khomeini, sì, Khomeini. Sì, in Iran Khomeini, mandavano la gente, mandano la gente a morire all'epoca, sì, all'epoca di... No, tagliano le mani, fanno le peggio cose. Sì, sì, fanno di peggio. Scusi, a me ha tentato di rovinarmi la vita, non c'è dubbio. A me, cioè, tutte le persone che stanno vicine a me, la famiglia, eccetera. Cioè, il danno che fanno queste persone, sì, è, sì, enorme e passa, per così dire, quasi in... Senza attenzione, capisci? Cioè l'Ahmadinejad della magistratura per lei? No, il Khomeini della magistratura. Khomeini. Sì, sì, sì, certo. Vedi, siete bravi voi a trovare la definizione. Questa è la sua risata dell'Utri, abbiamo registrato, ah, sì, la sua bella, stupenda bella risata, la sua stupenda, infatti, risata. Se ho ancora voglia di ridere, una bella cosa. Infatti, guardi, non è, le cose qualche volta arrivano, ma lei ormai no, si lascia scivolare tutto addosso, o no? Sì, no, è l'unica maniera per resistere e continuare a vivere, altrimenti per molto meno, io ho visto gente che ci ha lasciato le penne, per molto meno. Lei dice che da questo processo nuovo non si aspetta uno, non quello nuovo, quello che si è riaperto, non si aspetta... Quello che si è riaperto, non mi aspetto niente. No, un cazzo ha detto oggi. Comunque. Sì, sì, vabbè, si può dire in televisione, no? Dove, alla radio. Come no? Certo. Alla radio si può dire, come? Va bene, e poi ormai è una parola, non mi aspetto un cazzo, nel senso che... No, cosa devo dire quando mi fanno domanda cosa si aspetta? Cosa mi aspetto? Un cazzo, scusi. Cioè, ma si aspetta di essere condannato? No, io spero della giustizia. Certo che a Palermo non lo so come, non lo so. Mi dicono che questa corte d'appello sia di persone, diciamo, sì, non politicizzate, detto così. Sì. Per cui può darsi che si facciano dei convincimenti diversi da quelli che hanno... Sì. Che hanno determinato la sentenza dell'altra volta. Però non lo so, non mi aspetto niente, nel senso che sarà quel che sarà. Cosa vuoi che dica? Certo, un imputato così si aspetta di essere assolto. Sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà. Una poi canzone, sarà anche una canzone. Anche bello, no? Ci sarà di nuovo la Cassazione e poi vediamo. Senta, io sono curioso di una cosa. Con i soldi che lei ha incassato questa vendita, ma che ci ha fatto con tutti questi soldi? 20 milioni di euro sono tanti, No, non sono niente, perché intanto pagare tutti i debiti, io avevo molti mutui, tutto mutuato, sono il più grande mutuato di tanti. E perché ha fatto tutti questi mutui? Scusi, ho fatto i mutui per fare i lavori, per mantenere la famiglia, per comprare cose che mi piacciono, come per esempio molti spesi nei libri, i miei soldi vanno... Sì. Vanno in gran parte sui libri. Dunque, ricoprire debiti, poi che ci ha fatto? Niente, sono lì che ci ho fatto, sono con i debiti e poi ci devo campare. Io non ho già altri stipendi, non ho più niente. Ma lei ha un livello di vita... Mi scrive come un poveraccio. Beh, scusi, hai lo stipendio da parlamentare? Com'è un barbone? No, stipendio da parlamentare, poi tutti fanno chissà che, non è un granché. Certo, diciamo che quelli che non fanno a tempo a vivere tutto il mese, che l'ultima settimana... leccano la sarda, come si dice dalle mie parti, si offendono, si incazzano se io dico queste cose. Però per lei che ha un livello di vita alto non ha niente. Io ho 4 figli, cioè, insomma, ho il livello di vita, non è che poi faccio chissà che cosa, però si spende la casa qua, la casa là, destra e sinistra. Certo. Ma poi che cazzo ve ne frega, scusate, lo sa, senatore dell'Utri, sa una cosa stupenda che recentemente è successa durante la presentazione. Anche lui, sì, infatti, a noi dei soldi degli altri ci frega niente, però sullo stipendio da parlamentare si può ragionare. La recentemente Stella, l'amministratore delegato di Telecom Italia Media, mentre i giornalisti lo circondavano, è straordinario questo pezzo che le faccio ascoltare. Sì, la voglio rimettere in onda. Stella, ma è il mio editore, perché devi fare il tuo, è anche il tuo editore, pazienza. Ha detto a un certo punto: ma che ve frega a voi, in dialetto orvietano come me, ma che ve frega a voi dei soldi dell'altri? Sentiamolo un po'. Che te frega dei soldi che guadagnano gli altri? Perché c'è questa curiosità morbosa, no? Questa curiosità morbosa per i soldi degli altri. Ma Santoro alla 7, come lo vede lei? Come l'ha visto? Santoro alla 7 è perfetto. Perché? È un bel colpo della 7. Ah, un bel colpo, eh? Ma non c'è dubbio. Lì hanno fatto un bellissimo colpo. E la 7 farà un bel ascolto. Ma perché non ci ha pensato Mediaset, scusi? Ma no, Mediaset ci aveva pensato, Santoro l'ho fatto venire io, per questo signore che le sta parlando, lo ha chiesto insistentemente negli anni, a inizi anni 80, a Mediaset, io su Italia 1, io ero convinto che fosse giusto avere anche Santoro, perché noi come televisione commerciale non avevamo nessuna politicizzazione. Sì. Poi ha sempre detto: noi siamo una televisione commerciale e il cappuccino lo dobbiamo vendere a tutti, da destra a sinistra. E poi è arrivato a un certo punto, no? E poi è arrivato il cappuccino? Ma, no, Santoro dice: Santoro, Moby Dick. Santoro, sì. Santoro è arrivato. Come no? È stato lì e come? Guardi, Galliani, io e con Falonieri e Costanzo, che lo sosteneva molto, abbiamo fatto diversi incontri per convincerlo a venire con noi, ed è venuto. Beh, ma ci fu, scusami Cruciani, tu lo ricorderai senz'altro, ci fu la famosa partecipazione del senatore Dell'Utri a una puntata di Moby Dick di Michele Santoro, in cui poi Dell'Utri disse: siccome io sono mafioso, e poi lì Santoro lo rimandò più volte. Quel famoso... Sì, come no, certo. Cioè, è lì, insomma, ma scusi, perché Mediaset non l'ha ripreso subito adesso? Che comunque o no? Non ho ripreso chi? Santoro? No, Mediaset, perché non si è ripresa Santoro adesso? Che comunque. Ma Santoro, però, da allora è cambiato anche. Cioè, allora era molto più, direi, naif, una persona. Adesso è diventato proprio, si è incallito proprio, no? Lo vedi? È uno arrabbiato, è uno. Come in Groia. Beh, insomma, siamo in quella. Categoria, in quell'ambito lì, Senta, se il processo questo qua di appello va per le lunghe, lei che ha sempre detto che al Parlamento c'è solamente per difendersi dagli attacchi della magistratura, non è che si ricandida pure nel 2013, no? Ma che ne so, andiamo avanti, non sappiamo se ci siamo domani. Ma ci pensa a ricandidarsi nel 2013 eventualmente? Io non penso niente, io penso per stasera di andare a dormire, domani di svegliarmi. Poi domani vedremo. Senta, la ricandidatura di Berlusconi va benissimo? Non c'è dubbio, che va bene. Non è un po' muffa, non sa di vecchio. Ma perché? Il cuore vecchio, non vedo, non capisco la ragione. Se Berlusconi si candida, si propone di nuovo all'elettorato, sarà l'elettorato a dire se Berlusconi va bene, sempre va meno bene. Ma già quattro volte, senatore Dell'Utri. Può essere anche otto, è consentito. Ma lei gliel'ha consigliato? Ma lei il ministro lo farebbe? Io non consiglio, Berlusconi non ha bisogno di consigli, sa decidere da sé. Eppure rifare Forza Italia, no? Forza Italia, non lo so, io credo che bisogna guardare avanti. Berlusconi non farà Forza Italia, vedrà. Perché? Non rifà, non torna indietro, ma non si torna indietro. Lei che l'ha fondata, Dell'Utri, lei che l'ha fondata, dica a Berlusconi, non rifare Forza Italia perché non si torna indietro. Ma lo sa già, c'è bisogno che lo dica io. Ma è importante, un consiglio, lei ogni tanto lo sentirà per telefono Berlusconi, no? Certo, lo sento. Glielo dica quando lo sente, Forza Italia è roba, no, non bisogna mai tornare indietro, o sbaglio? Io l'ho detto io, perché lo dice anche lei. È quello che... Io lo credo, però. Io ci credo. Io pure. Vede che siamo d'accordo. Benissimo. Ma ad Alfano cosa è mancato, secondo lei? Il famoso Alfano, qui... Cosa è mancato? Il quid, diciamo la verità. Vabbè, perché dobbiamo parlare... Alfano è uno bravo, che io stimo, un bravo ragazzo. Non bravo ragazzo per dire... No, è uno bravo, è uno che ha delle doti, eccetera. Allora perché è andato male? Perché alla fine è tramontato? Non è andato male, la storia è questa. Si è trovato in una situazione tale per cui deve fare quello che sta facendo. Non poteva fare altro. Cioè, però non sarà mai un numero uno. Non sarà mai un numero uno. Dipende, se c'è un altro numero uno sarà il numero due, quando non c'è il numero uno passa il numero uno lui. Sento una cosa, senatore Dell'Utri, ma la Sicilia, no? Ha visto che casino che c'è adesso con Lombardo, con i soldi, il default, ma non servirebbe, a lei è una persona cara, non servirebbe un bel Mussolini per la Sicilia? Cioè un... Un'altra risata mi devo fare. Sarebbe uno... Basterebbe la Sicilia, servirebbe uno bravo con le palle. Ecco, e poi soprattutto ci vogliono i siciliani che si diano una smossa, perché non è possibile, è una terra straordinaria che francamente è abbandonata da tutti, ma i siciliani, siamo noi siciliani che abbiamo la colpa. Siete abituati al posto fisso, sì, queste robe qua. Posto... Io quando vado a Palermo, a Roma non ci aiutano, ma che Roma, in cacchio c'entra Roma? alziamo il culo dalla sedia e lavoriamo. Eh certo. Scusi un attimo. Finché la Sicilia non capirà questo, non va da nessuna parte, purtroppo. Senta, le posso chiedere un'ultima cosa che riguarda la trattativa Stato-mafia, una cosa lunghissima, complicatissima. Secondo lei, a un certo punto non è quasi giusto come Israele tratta con i terroristi? Non è, con Hamas. Non è giusto che lo Stato, qualcuno dello Stato abbia pensato di trattare con i mafiosi? Ma io con i mafiosi non lo so, siccome non sono io che ho trattato, non lo so. Trattato sì, se si è trattato per cercare di evitare guai peggiori, può darsi che sia stata una cosa giusta, però non è una cosa che mi sento di commentare, perché non lo so, la mafia non si può trattare con la mafia. Bene, conclusione con il super ospite di questa sera qui alla Zanzara, Marcello Dell'Utri, senatore del PDL. Allora, un piccolo commentino su questa cosa dell'intercettazione di Napolitano, senatore Dell'Utri. Fa bene Napolitano a fare il conflitto di interesse con Palermo? Immagino di sì, secondo sì, lei, no? Sì, certo che fa bene. Ma è inaudito quello che è successo, è inaudito. Eppure ancora in Groia ci sono quelli che sostengono che fa bene così, eccetera. Che deve essere rivelata la voce le parole di Napolitano. Presidente di Napolitano, no, io lo trovo brutto sotto molti profili questo discorso. È giusto che Napolitano si sia ribellato, insomma, è il minimo. Napolitano contro Ingroia. Io voglio chiedere una cosa però a Dell'Utri, l'ultima. Perché non va alla commemorazione della strage di Via D'Amelio? Sarebbe un atto davvero coraggioso e clamoroso, no? Partecipare a una manifestazione antimafia, così mostrerebbe davvero il suo volto, ma perché no? Deve fare questa cosa? Perché? Mi pare una cazzata. Perché? Perché io sono contro, c'è bisogno che vado lì per dimostrare, ma perché mi dite queste cose? Ma contro cosa, senatore, scusi? Contro la mafia, che è logico, cosa vado lì per dimostrare che io non sono mafioso? Ma non ha senso. No, non per questo. Io adesso vado in giro a dire alla gente, ma io non sono mafioso. Ma non per questo, testimonianza. La classe politica. Ma che è una cosa logica. Non c'è bisogno di andare a dire io sono. Ma che cazzo? Con le agendine rosse, questa cosa qua. Ma no, stai scherzando, ma no, ma tutto questo teatrino che viene fatto ogni volta intorno a queste cose, a parte come quelli teatrino? Che ci credono veramente, e fanno molti ne approfittano di queste cose qua. Guardi, ci sono balletti intorno di gente inutile che si fa grande o si fa qualcuno grazie anche a queste cose. Lo Stato ci deve essere, ci mancherebbe altro. Ma io anche devo andare lì per far vedere che no, ma non esiste. Soprattutto verrebbe qualcuno, lo attaccherebbe sicuramente. Logico. Mi avete dato un pessimo consiglio. Ma noi Parenzo che gliel'ha dato, io non c'entro niente. Parenzo ogni tanto festa una merda. Vabbè, sempre. Scusi, Laminetti si deve dimettere o no? Senatore Dell'Utri, Laminetti. E che me frega della Minetti, perché secondo me non me frega niente, capito? Ecco, ho capito. C'è là, è là, che stia là, e perché si deve dimettere? No, io personalmente credo che sia un errore peggiore quello di chiedere dimissione e di averla messa. Bravo, è la stessa cosa che penso io, assolutamente. Ecco. Assolutamente. Sì. Cioè non doveva entrare, ma adesso è come si dice in Veneto, fare la pezza che è peggio del buco, sì. Sì. Esatto. A me sembra così questa cosa. La ringrazio, a presto. Cari, auguri, complimenti, arrivederci. Grazie. È ancora a casa. Come ha detto ancora? Ancora a casa, appunto, sono passati un quarto d'ora, passò, va bene. Arrivederci, grazie. Buon lavoro. Ma lavoro dove? Dell'Utri c'ha 2,91% di presenza al Senato. Andiamo un po' più al Senato, senatore Dell'Utri. No, ma io sono senatore a vita, quindi vado lì, mi sono nominato io senatore a vita. Come vado quando ci va la Montalcini? Non ci va mai neanche io. Ma che c'entra la Montalcini? Ma che lo so, c'entra. Vuole divertirsi, la faccio divertire. No, ma vado un po' di più, no? 2,3%. Ci va poco al Senato, non quando conta... serve ci vado, quando non serve inutile, cioè mai praticamente. Ma chi lo valuta? Non serve, fare il senatore non serve un cazzo, diciamolo. No, non lo fa, ma io l'ho già detto perché sono parola, l'ho detto chiaramente, per legittima difesa, punto. Votare o non votare non gliene può fregare di meno, diciamo. No, ma io mai ho fatto il senatore, non mi sono candidato io quando nel 94 c'erano le candidature, non mi sono candidato, le facevo certo. Io le candidature, cioè si figuri cosa me ne fregava a me di andare in Parlamento, proprio zero tagliato. Proprio un dispetto per l'istituzione. E lavorino soprattutto. Ancora a casa, Semo. Ancora a casa, Semo. Arrivederci. Ancora arrivederci. Arrivederci. Ancora a casa, Semo. Va bene. Ma è una cosa pazzesca, comunque. Andrea da Roma, 800 24 00 24. Posso dire una cosa per gli amici del Fatto Quotidiano? Cosa? Questa intervista, dico No, ma stai zitto. Andrea, fammi sentire, non fare cose che riguardano... Sì, mi ha fatto godere, anche me, io ho goduto moltissimo. Mi ha fatto godere, l'intervista dell'Utri mi ha fatto godere. Andrea da Roma, dica. Buonasera, stavo incominciando a piangere, pensavo vi fosse dimenticati di me. Io vi dico che non riesco ad andare a dormire senza aver ascoltato la Zanzara. Oh, volta, finalmente, Andrea. Ma non sto scherzando. E vi dico che molte volte cerco di guardarvi in webcam e vedo Cruciani che in webcam che mi assomiglia a Fride. Fa quelle stesse cose, si incazza con i collaboratori, butta le carte, tira strilli, è uno spettacolo. Cruciani è uno spettacolo. Beh, adesso, come Fede adesso non lo so, però comunque è vero, succede qualche volta che mi incazzo con la gente, è normale. Io spero che non faccia della fine di Fede. No, ma la fine di Fede. Fede ha fatto una fine bellissima. Ha 82 anni. Oh, ma che stiamo scherzando? Ma magari Rivarci ha 82 anni. Lotta come un leone, lucidissimo. Ha 82 anni. Oh, 82, credo. 82, ma di che parliamo? Su. Sì, a leccare. Ho capito, ma io la parlavo di altre cose. Lei ha detto non voglio che lei faccia la fine di Fede. Ma che fine ha fatto? Fede ha fatto. È stato sulle barricate a lottare come un leone fino a 82 anni e continuerà a lottare. A leccare. E vabbè, avrà fatto a leccare. A un certo punto si è innamorato di Berlusconi. E che vogliamo fare? Andrea, lei si è innamorato mai di qualcuno? Lei si è mai innamorato di qualcuno? Questo volevo arrivare. Si è innamorato di qualcuno, lei, Andrea? Esattamente. E allora, lui si è innamorato di Berlusconi. Cosa vuole che le dica? Ma io capisco anche perché voi sposate spesso, chiamate spesso Fede, perché tra culattoni... Quindi sposerà la vostra causa di... No vabbè, diciamo, ma che so che c'entra? È partito così bene, che c'entrano i culattoni? Scusi, cosa c'entrano i culattoni? Perché lui secondo me è un ottimo rappresentante della categoria e con questo... Ma non, quale non categoria? Sto... Qual è la categoria? I culattoni non sono una categoria? Sì, secondo me è gay, lui è gay, sicuro è gay. Ma che gay? Ma sì che è gay, che Fede deve essere per forza... Deve essere per forza questo... Con questo non lo sto criticando, io cioè, non ho nulla in contrario, anzi, credo che... Guardi, secondo me è tutto tranne gay. Ma non lo so. Ma comunque non è importante, non è importante. Adesso com'è che le è venuto in mente di Emilio Fede gay? No, scusi Andrea, me lo dovrebbe spiegare, come le è venuto in mente? Ma perché quando tutte le cose che spara lei fuori, come le sono venute in mente? E ogni tanto... Ma ho capito, ma io le posso dire, perché sono qui e mi chiamo GC, Giuseppe Cruciani, e dunque sono autorizzato a dire. Lei forse se parla e se dice le stesse cose non è autorizzato. Vabbè, non... È così, va la vita. Posso... A lei la pagano per dire stronzate ogni tanto? A lei la pagano per dire stronzate? Purtroppo no. A me invece ogni tanto mi pagano per dire stronzate. Questa è la nostra idea, mi farebbe piacere. Ha capito, però per arrivare a essere pagati per dire stronzate, ce ne vuole però. Ci vuole bravura. Certamente. Però io le auguro di essere pagato tantissimo. Quanti anni ha lei, Andrea? 28. 28 anni, guardi, io le auguro. Oggi quanto guadagna? Le lavora? No, purtroppo no, cioè lavoriccio in precario. Precario, lavoricchio, non diciamo precario, è una parola che odio. Sì, lavoriccio. Cerca di che ne so, guadagna 1.500 euro al mese, le guadagna? Ma se arrivi a 800 euro sono fortunato. 800 euro, vabbè, 800 euro sono un po' pochini. Allora, io le auguro tra qualche anno di guadagnare tantissimi soldi, però tantissimi, molti. Mi permetta di dire che comunque quello che dice lei, spesso anche le sue stronzate, tra virgolette, sì, sono spesso condivisibili, sono spesso ascoltate. No, ma io parlavo dell'aspetto cialtronesco. Cioè, invece quello che il vostro collega, come si chiama, nuovo in punto di... Ma quello che dice, quello fa un'altra trasmissione, il signor Giannino. Mamma mia, Giannino, il mitico Giannino, no, non mi tocchi, non mi tocchi. Guardi, io anche ero per Giannino for President, ma oggi ha toccato davvero. Ma perché, che ha fatto oggi? Che ha detto? Ma oggi Giannino è inascoltabile, ho dovuto spegnere la radio. Che ha fatto? Che ha detto? Ma che cazzo, fuori dall'euro, la Lega, di questo noi leghisti abbiamo fatto, si è quasi secondo me dichiarato leghista. No, ma no, no, lei ha ascoltato male, ha capito male, Andrea, ha capito male. Lo spero. Ha capito male. Guardi che Giannino e la Lega hanno dei punti in comune, come Giannino e altri partiti. È molto legato al signor Maroni, nel senso che ha una stima, non è molto legato, però guardi, le assicuro, tutto è tranne che leghista. Ora la ringrazio, Andrea. Scandalizzatevi, cari amici che ogni tanto aprite bocca, cari amici della Zanzara e non solo della Zanzara, che ogni tanto vi indignate, Parenzo in primis, per gli stipendi ai super manager o per la politica. Cosa ne dite dei 650.000 euro dati a tempo indeterminato alla direttore generale della RAI, signor Gubitosi, di questi tempi? Ma lasciamo perdere di questi tempi. 650.000 euro per il direttore generale della RAI Gubitosi a tempo indeterminato. Cosa dici, Parenzo? Abbiamo già detto che il governo dei tecnici ha fatto uno dei più grandi errori, perché non voglio più dire parolacce, ho fatto un fioretto, uno dei più grandi errori di questa legislatura. Eccoci qui, 800 24 00 24. Matteo da Forlì, buonasera Matteo. Ah, buonasera. Vada, dica. Ma niente, questa campagna per il matrimonio omosessuale, cosa che ubriacata ha preso? Io sono a favore del matrimonio gay, allora qual è il problema? No, dico perché l'ho sentita parlare con chi è contrario, sì, e con chi vuole solo un adeguamento delle norme, il riconoscimento delle coppie di fatto, è come un antimoderno, perché in Francia... Ma chi se ne frega? Io non ho detto che è antimoderno, io ho detto sono... Sì, lei ha detto che è antimoderno, che è ora di farlo come se la storia fosse... No, è ora di farlo, punto. Guardi, se vuole ma sapere come... ha detto che è ora di farlo? Lo dice lei. Certo che lo dico io, lo penso ma io. Ma è una stupidaggine, no? Perché lei si ammanta come una moda, questi italiani che sono ancora... retrivi, io non ho detto questo, tant'è che ma no, gli italiani non lo vogliono il matrimonio fra gli omosessuali. Ma chi gliel'ha detto a lei? Ma glielo dico io. Ma chi gliel'ha detto? Detto che lo vogliono? È lei che gliel'ha detto che lo vogliono? È ovvio che non lo vogliono. Tutti i sondaggi dimostrano ma questo. Ma che sondaggi di Maria Zecchina, ma che sondaggi? Allora, caro Matteo, innanzitutto io non ho mai detto che chi la pensa al contrario è fuori dalla storia, no, fuori dal mondo. Primo, mai detto. Mai detto. No, assolutamente. Penso che quello del PD, che aveva quel giovane PD che l'ha presentato, poi sono rimasto un po' deluso da lei, perché in effetti mi aspettavo... Deluso che c'è, amico, ho detto che è fuori dal mondo. Ho detto che sono rimasto deluso perché mi aspettavo maggiore coraggio sul matrimonio omosessuale. Allora... Ma il coraggio può essere oggi non concederlo. Guardi, perché Matteo, ma va benissimo, io la rispetto perché lei non... No, ma perché il mondo ineluttabilmente deve andare verso il matrimonio gay? Dove sta scritto? Ma perché no, ha un senso di modello? Perché Hollande lo fa... Ma chi se ne frega, Matteo, se ma guarda questa cosa qua, perché tanto gli italiani fanno sempre così, lo fa Hollande e poi Zapatero. Ma io non ho detto che lo fa Hollande, ho detto a un uomo di sinistra come era ieri il deputato del Partito Democratico, ho detto che il suo amico Hollande ha detto in 2 minuti che vuole il matrimonio gay e le adozioni, questo ho detto, non ho detto che Hollande fa bene, per me fa bene naturalmente, ma non è che ho detto che è l'unico, non ho detto che quello è l'unico mondo possibile. Matteo, io non sono come lei, non sono fondamentalista come lei. Io penso che i paesi dove non c'è il matrimonio gay e dove non c'è l'adozione sono paesi normali. No, come lei o come lei, sono due visioni della società. Beh, un attimo che solo, Matteo, un attimo solo, resti lì perché lei è fortissimo. È con noi Maurizio Zamparini, buonasera. Buonasera, ciao. Come stai? Ecco, ci mancava anche Zamparini. Oddio, Parenzo, cos'hai da dire con Zamparini? Cos'hai da dire? No, con... ma è molto simpatico Zamparini. Però... Che c'ha? Però cosa? No, spara sempre. Ma forti, è vero che vuole candidare Michele Cucuzza a governatore della Sicilia, ho letto da qualche parte. No, non lo conosco. Signor Cucuzza. Signor Cucuzza, sarebbe eccezionale. Non lo conosco, non l'ho mai visto, ma naturalmente mettono insieme delle notizie così fasulle che non c'entrano. Io non posso proporre nessuno, perché non c'ho nessun partito. Scusi un attimo, non c'è il Movimento per gli Italiani, scusi? Il Movimento per la Gente non è per la gente, è no. In Sicilia c'è un partito che hanno fatto i sindaci, si chiama Movimento per la Gente della Sicilia, che io faccio da supporto esterno, non sono... Da supporto esterno. Scusate, Zamparini, mi dica... Ma stai zitto, stai zitto. Zamparini, scusi un attimo, ma mi dica la verità. Io so come la pensa lei, ma ste elezioni in Sicilia a che servono? Non ci vorrebbe un bel prefetto, un commissario che si mette lì e risana i conti? Ma ha visto che se fosse un'azienda come la sua, la Sicilia, ma avrebbe già portato i libri in tribunale. Ma molto probabilmente questo partito che hanno fatto i sindaci delle liste civiche della Sicilia, che si chiama il Movimento per la Gente della Sicilia del Territorio, servirà proprio a questo, perché va ribaltata a fare un'economia nuova, a fare non quello che hanno fatto fino ad oggi, e naturalmente si fa solo ricostruendo, si fa solo lavorando sul serio, ma ci devono pensare i siciliani, non gli altri. Ho capito, ma basta a rimborcarsi. Sì, basta che la Sicilia è una terra ricca, basta che si diano tutti da fare e ci sia una buona amministrazione. Bisogna ricominciare una strada diversa, perché come la Sicilia è conciata tutta l'Italia. Ma serve votare? Votare serve, mi dica la verità. Sicuramente serve votare per mandare giù questi qua e mandare su queste persone nuove che stanno venendo fuori, che non sono vecchi politici, sono tutte persone nuove. Come no? Se noi italiani che serve? La dittatura, non serve votare in Italia? Ci teniamo Monti ancora una volta? No, che c'entra Monti? Facciamo la dittatura, tanto a votare non serve più. Scusi, lei ha detto una volta che a Palermo, per esempio, il sindaco non era il caso di votarlo perché tanto bisognava mettere uno là che... insomma, a mettere un po' di ordine a Palermo. La stessa cosa vale per la Sicilia. Qui adesso, ci vuole... adesso Orlando sta mettendo un po' d'ordine nel comune, penso che è uno capace, bravo e sa farlo. Per la Sicilia c'è da mettere ordine tutto, ma c'è da rifondare la Sicilia, c'è da fare una costituente economica, c'è un grande lavoro da fare, ma sarà da fare anche per tutta l'Italia, non pensi che sarà da fare solo per la Sicilia. Comunque guardi, per me come le dico io, Zamparini, votare non serve a niente. Un prefetto mandato dal governo, un commissario che toglie l'autonomia folle della Sicilia, noi abbiamo risolto i problemi, abbiamo messo un governo tecnico, ci ha risolto tutto. No, vabbè, ma che c'entra? Quello... come che c'entra? C'entra secondo la sua filosofia, no? Ci mandiamo un governo tecnico bisogna... che non è votato. Ma guardi che noi siamo d'accordo sulle finalità. Bisogna mandare via un po' di gente. Basta con le assunzioni. Il debito bisogna rimetterlo a posto della Sicilia. Togliere l'autonomia folle della Sicilia, che ha creato solo scompensi e sperperi. Ma non c'è un'autonomia folle. La Sicilia c'ha uno statuto che non è mai stato rispettato. Di autonomia che invece andrebbero rispettate. Mi dica lei che è vero che è un'aberrazione aver fatto dei posti di lavoro solo assistenziali, ma lei come fa a mandare a casa adesso un padre di famiglia che prende lo stipendio e ha due figli che manda a scuola perché gli dice riduciamo i costi? No, è un problema sociale molto grave da affrontare, non per radio, gravissimo, certo. E mi fa piacere che lei ne parli, è un problema che va affrontato sedendo sul tavolo e trovando le soluzioni con buona volontà, pensando di lavorare tutti insieme, tutti, destra, sinistra. Lo sotto, sa quanti sopra. Soldi ha dato Monti, cioè il governo, al nuovo direttore generale della Rai? Non lo so, 650.000 a tempo indeterminato. Non lo so, ma non mi interessa, insomma. Mi interessa di tutti quegli operai che se rimangono a casa tutti i giorni disoccupati, mi interessa delle aziende che chiudono, di quest'Italia che viene presa per i fondelli, e che i giornali dicono che va tutto bene se lo spreco. Ma chi l'ha bene. Detto? I giornali sono i più catastrofisti di tutti. Sono di supporto a Monti, che in certo momento non vede che stiamo annegando, stiamo naufragando. Questo chi era? Dell'Utri? Beh, grandissimo. Sì, 800-24-0024, la sfilza, la gara delle risate. Abbiamo con noi il mitico Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, imprenditore. Il ritorno di Berlusconi. Voglio sentire parole di fiele da parte di Zamparini per il ritorno di Berlusconi in politica, che vuole rifare Forza Italia. Zamparini, mi dico la sua. Quando ha sentito questa notizia, cosa ha provato? Mal di pancia. Addirittura? Ma... Ma perché mal di pancia? Adesso promette la rivoluzione liberale? No, perché noi abbiamo bisogno dei ragazzi di 40 anni, 45 anni massimo, che prendono in mano il paese e con un po' di inesperienza, che diano voglia di fare, voglia di lavorare, voglia di rinnovare. Ma cosa vuole che dia più Berlusconi l'Italia dopo 20 anni? E che ne so? In 20 anni ci ha lasciato lui. Oggi mi ha fatto ridere, dice: io elimino Equitalia, che con Tremonti l'ha fatta diventare lui quella bestia vorace che è diventata. Elimino l'IMU, che a un certo momento un'invenzione aveva eliminato l'ICI, poi l'abbiamo riportata a questo livello. No, ma l'IMU è un'invenzione sua, è un'invenzione sua, perché ha votato insieme al governo Monti con l'IMU. Sicuramente, per cui a un certo momento fa solo della propaganda spicciola anche lui in questo momento, ieri lo chiamava populismo, e io direi che lui con la sua esperienza, con tutto, si goda tutti i soldi che ha e lasci i giovani, lasci i giovani, non abbiamo bisogno più di lui dell'Italia, faccia solo il consulente esterno con la sua esperienza, ma non scenda in politica. Ma si figuri se sia... Caro ex presidente, hai tutto il tempo libero adesso per i bunga bunga, non tornare in politica che poi te lo vietano. Adesso ha tantissimi... dice se torna in politica però un po' più... Appunto, poi i magistrati gli saltano addosso dopo. Già hanno cominciato, già hanno cominciato. comunque la realtà è che per esempio col Milan ha venduto tutti. Che è diventato il Milan, Zamparini? Ma non lo so, ha fatto, non so, ha fatto un'operazione secondo me giusta con tutti quei soldi che ha preso, però quei soldi che c'ha lui, se deve lavorare un po' nel sociale, il campionato di calcio, il calcio per la gente che gli dà la felicità è anche un po' di sociale, si vede che non vuol fare un po' di socialità neanche lì, insomma. Io mi ricordo quando Agnelli, che era il più ricco d'Italia, si è rifiutato di prendere Sivoli perché naturalmente gli operai della Fiat protestavano, mi sembra anche adesso che Berlusconi abbia fatto la stessa scelta, è una scelta etica, perché andava fatta prima. Io mi ricordo però che quello che ha disastrato il campionato italiano 20 anni fa, lo Seicco che arrivò allora in Italia, era lui. Cioè, lo Seicco che adesso è in Francia, fa quello che fa, spiro 200 milioni in Italia, per fortuna, per portare là i giocatori, io ero stato Pastore. 20 anni fa, 25 anni fa, quando è entrato lui, Berlusconi, lo Seicco era lui. Certo. Ha triplicato i costi dei giocatori. Scusi un attimo, ma adesso il Milan che è diventato una squadra così, di che tipo? La squadra piccola. Non lo so, lo vedremo sul campionato. Sono diventati piccoli, eh. Però io penso che questo succederà un po' in futuro, un po' per tutti. Il calcio va ridimensionato nei costi. Perché ma è vero, è vero che forse. Ma quanto ha perso col calcio? Quanto ci ha perso col calcio? Quanto ci ha perso? Io non ho perso, è la mia passione, no? Io a un certo momento lo considero il mio vizio. In tantissimi anni, 25 anni che sono dentro, ci ho perso. E quanto ti costa il vizio? Quest'anno sono da 4 anni. 5 anni che io ho il bilancio pari nel Palermo, faccio molta fatica, è un lavoro duro, però insomma non tiro più fuori neanche un euro ed è la mia soddisfazione, perché un domani chi lo prende. Ma col Palermo banana. Quanto ci hai perso, Maurizio? No, io ho investito all'inizio circa 80 milioni nel Palermo per fare la squadra che c'è, ma oggi il Palermo ha una valutazione. Però ci hai guadagnato col Palermo, diciamo. No, non ho guadagnato, li ho ancora investiti lì e quando lo venderò un domani, se riprendo i miei soldi, sarò felice. Ma lo puoi vendere il Palermo? Ma se trovassi gli Seicchi che adesso si sono fermati, che ritornano alla carica, glielo darei, perché in questo momento gli unici che hanno i soldi per fare il cazzo sono gli Seicchi. Un italiano che tira fuori i soldi non lo vedi, eh? No, non ce n'è più di italiani quei soldi. Però lo venderesti, se trovassi qualcuno che ti dà quanto? 100 milioni, che ne so, 120? No, ma non ho bisogno di soldi, se trovo uno capace di entrare dentro e di investire dei capitali, di lasciare dentro i miei, investire i capitali, di gestire la cosa. Io lo daresti? Sì, lo darei in gestione, uno giovane. Io quanto vale il Palermo adesso? Quanto vale? 100-120 milioni. 100-120, e dove lo trovi? Solo in Arabia lo puoi trovare uno così. Bravo. Non c'è niente da fare. Ma è vero che ti sei messo insieme ai fascisti, a Forza Nuova in Sicilia? Qualcuno dice che vuoi fare un... No, ma anche Forza Nuova, dico. Ma sai, me ne inventano uno al giorno. Uno dice che adesso ho fatto candidare Cucuta presidente. Quell'altro dice che vado con i fascisti, che non so chi sono. Forza Nuova. E l'altro, i Forconi. Sì, i Forconi li ho ricevuti circa 2-3 mesi fa. Poi la malattia di tutti questi movimenti, che poi diventano dei personalismi. E allora chi a capo pensa di aver inventato il mondo e senza umiltà dimentica che lui è andato a fare quello per lavorare per la povera gente che ha bisogno, insomma. Però io spero che il mio movimento vada un'ultima bene. Cosa Maurizio, un'ultima cosa, ma sempre di calcio, così diamo qualche titolo, va. Balzaretti, lo dai alla Lazio? Mai Balzaretti non me l'ha mai chiesto, lo titolo, neanche oggi che l'ho visto. L'unico che me l'ha chiesto è De Laurentiis, abbiamo detto no sia io che Balzaretti. Perché Balzaretti vuole rimanere a Palermo, la moglie di Palermo. L'unica società che potrebbe andare via è il Paris Saint Germain, che però non me l'ha chiesto perché la moglie lavora a Parigi. Ma quanto guadagna Balzaretti adesso? Poco. Guadagna 1 milione all'anno, quindi di poco. Cioè poco per i calciatori, dicono. Vabbè, 1 milione all'anno è tanta roba. È tanta roba, vorrebbe guadagnare un po' di più lui, o no? Ma è meglio di no. Perché è meglio di no? Perché c'è tanta roba, 1 milione, in futuro i giocatori fra 3-4 anni, te lo dico, ricordatelo che sarà la verità, guadagneranno la metà di adesso. Ah, la metà, tutti, vabbè, tranne quelli in Francia, però. Io spero in tutta Europa, ma sicuramente. Okay. Grazie, a presto. Okay, ciao, ciao. Matteo, ci sei ancora? Ah. Allora, con questi matrimoni? Zamparini c'è, è andato via. Zamparini, che ha fatto? Maurizio? Matteo? Mi dica. Allora, che con questi matrimoni, come siamo messi? Ah, non lo so. Io col mio so come sono messo. Ma quanti figli hai? Quanti figli ha? Ah, io ne ho 4. 4 figli. Se uno di loro diventasse omosessuale. Ah, classico, me l'aspettavo. Pensavo che non arrivasse a questa banalità. Allora, però... ma non è una banalità, è una cosa che può succedere. Guardi, che lei in che palazzo lo so, ha? Lo so. È pieno di froci intorno a lei, Matteo. Lo so, ma non è che sono per questo. Lo sa che è pieno di froci intorno a lei, sì. Sì, adesso è pieno, non esageriamo. Pieno, pieno. Intorno a lei, nel suo palazzo, se lei va al secondo piano, al terzo piano del suo condominio, se c'è un condominio. No, io sono in campagna. È in campagna, no, nelle casette accanto a lei, sicuramente su 10, 2 piano di, 2 sarà piena di frosci, sicuro. Ma immagino, anche pieno di nazisti pronti a fare gli agostini, il mondo è pieno di tanta roba. Vabbè, adesso ha paragonato gli omosessuali ai nazisti. No, non paragono gli omosessuali agostini ai nazisti, però penso spesso che il mondo sia pieno degli agostini nazisti. Mi è venuto in mente perché lei ha detto il mondo è pieno di omosessuali. Io dico sempre che il mondo è ancora pieno di nazisti pronti a fare quello che hanno fatto, perché è una considerazione che ogni tanto. Vabbè, però che c'entra? Mi è venuto in mente con quello che ha detto lei. E allora? E allora io penso che il matrimonio fra omosessuali non sia una cosa. E vabbè, lei è contrario. È contrario perché cosa succede col matrimonio con gli omosessuali? Si rovina il mondo? Si distrugge il mondo? No, perché quello è uno status, è un valore aggiunto che si dà alle coppie che procreano figli, che prendono un impegno per la vita. Io guardi, io la penso così, non è che due omosessuali devono per forza sposarsi quando quel rito appartiene ed è sempre appartenuto a un'altra radice. Ci vedo anche perché voglio dire, però questo non vuol dire che tutte le cose che si dicono, cioè che se due convivono insieme, le visite all'ospedale, la portabilità del contratto d'affitto, perché queste sono cose giuste, ma il matrimonio non è per, ma perché non ha senso. È un controsenso. Va bene, Matteo, grazie. Intanto Lombardo, il governatore della Sicilia, attacca soprattutto Libero e il Giornale. Quarero, Libero e il Giornale, hanno indotto Monti a scrivere la lettera. Addirittura, figuriamoci, Monti influenzato da Libero e il Giornale. Gli faremo pagare tutto il male che ci hanno fatto. Ci vuole portare in tribunale Libero e il Giornale. Ci tuteleremo in sede legale contro quella stampa, in particolare il giornale Libero, che hanno scritto falsità e menzogne sul conto della Sicilia, parlando di fallimento. Una campagna diffamatoria che arreca grave danno all'immagine della Sicilia. Lombardo, avete sprecato un sacco di soldi. La colpa non è sua. La colpa non è sua, caro governatore. La colpa è di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 40 anni, 50 anni, hanno portato la Sicilia al disastro. Se fosse un'azienda, porterebbe i libri in fallimento. Anche sua. Sì, certo, in parte, in piccola parte anche sua. Come? Tutti i dirigenti Borsa, che ha nominato? Ma che c'entra adesso i dirigenti, Borsa? Ma anche in piccola parte, ho detto, in piccola parte anche sua. Però c'è stato qualche anno Lombardo, eh? Cioè, ci sono stati tutti i governi precedenti. Le grandi assunzioni non sono state fatte con Lombardo. Chi è questo? Dell'Utri. 800 24 00 24. Chi è? Scusa. Hai delle cose molto gravi dell'Utri oggi, Pronto? Niente. Non lo so, Cristoforo dalla provincia di Messina. Come qua? Eccoci, Cristoforo. Allora, io vorrei parlare con Parenzo, che è un noto semiologo, perché gli volevo spiegare che Minetti, in russo Minet, vuol dire pompino. Addirittura. Sì, volevo sapere se il professore Parenzo gli può fare qualche legame. È informato di questo, dice lei. No, io non sapevo che la parola Minetti in russo volesse dire pompino. Non uso questo linguaggio. Minetti. Fare anche una battuta anche abbastanza, come dire, da trivio. È vero che ma che battuta da trivio, è vero che ci sono, no, bisogna alzare il livello di questa trasmissione, portare dei precari, portare dei professori universitari. Allora la cosa seria che vorrei dire è che sto andando a un meetup con i grillini. Sì. Ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Ma chi è questo? Non ho capito, scusi, che cosa dice? Sto andando a un meetup. Sì. Meetup con sì. I grillini. Sì. I grillini. Sì. Oh. Se a Catania siamo già un gruppo abbastanza nutrito, sì, vuol dire che non ce n'è più per nessuno. Lei dice, se non ce n'è più per nessuno, non è che stiamo qui a. Non è Lazio-Roma quando uno dice non ce n'è più per nessuno. No. E poi bisogna vedere. È inutile che andiamo a parlare ancora del cadavere di Berlusconi. È finita, signori, è finita. Ma è finita cosa? Ma che si capisce? È finita tutto il vecchiume, Berlusconi, tutta la vecchia politica, Fini. E lei dice è finito, adesso ci sono i meetup. Adesso c'è gente nuova, io ho 70 anni, ma vado lì per i ragazzi, per i giovani che finalmente hanno capito che bisogna svegliarsi, che devono andare a fare proselitismo e portare persone nuove. se non è possibile che noi mandiamo la nostra bella Italia, sì, a cutare. Salvatore dalla provincia di Messina, c'è un profluvio di telefonate da Messina, eh? Salvatore, dica. Salvatore? Lino da Messina. Lino da Messina. Buonasera, buonasera. Pronto? Pronto? Dica, dica. Non sentivo. Per gli argomenti che voi trattate, se il diavolo di Padre Enrico viene a sapere di questi argomenti, la fine che vi manda, vi porta chi è che dovrebbe sapere di questi argomenti? Scusi, si esprima in maniera logica. Se qualcuno viene a sapere chi di questi argomenti, chi? Non si sente niente. Marco da Reggio Emilia. Vittorio? Oh, come stai? Bene, bene, bene. Che è successo? Ma sei stato condannato a pagare dei soldi per Caselli? Sì, mi pare, sì, sì. Beh, spesso accade, quindi il mio avvocato si è già mosso per tentare di resistere, ma è coinvolto. 30.000 euro per delle cose gravissime che hai detto a Caselli in una trasmissione, tra l'altro condotta da Parenzo, o sbaglio? È caduta la linea. Gravissime non mi sembravano, però. Eh? Gravissime non mi sembravano, perché era che il processo Andreotti è un processo politico, una cosa che la storia... Vabbè, adesso non torniamo su questa cosa, non torniamo su questo. Sì, sì, sì, l'ho detto a Tele Lombardia, quando andavo gratis da... Aspetta, aspetta, che è caduta la linea, è caduta la linea. Quando andavo, pronto, ci sei? Sì, sì, ci sono. Quando andavo gratis da Parenzo. E allora abbiamo stato per vedere di resistere. Però sei stato costretto a pagare 30.000 euro. Sì, beh, insolito con la rete, no? Ma che insolito? Solo tu pare che sei stato condannato a pagare. No, nel dispositivo c'è scritto che anche la rete è coinvolta. Ma è capitato anche con Gori. Gori chiuse Sgarbi Quotidiani perché ha dovuto pagare la metà della pena che mi era stata data per una trasmissione di Sgarbi Quotidiani. È un dato oggettivo proprio. Aspetta un attimo, quel cretino ha abbassato il telefono. Cioè, David? Non so di cosa... Ho dato mandato... di verificare questo con un commento notizie. Ma che non commenti notizie? No. Vittorio, vuoi dire qualcosa a Parenzo? Non voglio parlare di cose che... Non ho fatto tecnico, l'avvocato ha letto il dispositivo ed è coinvolto che per Lombardia, come era coinvolto per Canale 5, insomma. Cioè, tu stai dicendo che Parenzo deve pagare la metà delle tue della somma? Vittorio? È sparito, vabbè, adesso lo recuperiamo, Mario da Roma, cioè, la notizia è questa: è stato condannato il signor Sgarbi a pagare 30.000 euro e vuole i soldi pure da Parenzo, questa è la realtà. Ma io, guarda, non commento nulla di tutto questo, non so niente e non commento nulla di tutto questo. No, ma vedi che non puoi commentare, la notizia non è questa. Ma c'è un cazzo da ridere, io non commento niente di tutta questa vicenda qui, non voglio commentare nulla. Ma devi commentare, cioè ci sono una somma che è stata... devo commentare niente perché non mi risulta nulla. Nulla risulta a Tele Lombardia, tutt'altro, e quindi io non ho nulla da commentare, sono molto serio, non c'è nulla da dire. No, ma ho capito, però qua c'è un dispositivo di una sentenza. Non c'è un cazzo qui, nulla. No, ma c'è qualcosa. Io non mi risulta niente di tutto questo. Se una persona è stata condannata, lui, sono fatti suoi, io non so nulla di questa vicenda. Vittorio, Parenzo è un po' nervoso. Il fatto che non mi fa piacere che sia nervoso, d'altra parte... La trasmissione era la sua, era condotta da lui, quindi poteva farla registrata, oppure poteva non invitarmi, come dico sempre voi, non invitatemi, no? Chiaro che leggerò il dispositivo della sentenza, non c'è citata Tele Lombardia, ognuno assume la responsabilità di quello che dice. Non è una condanna su nulla, è una cosa che non è accaduta allora. Se non è accaduta Tele Lombardia, perché non avrebbero denunciato. Però diciamo la verità, Vittorio, per la prima volta Parenzo forse tira fuori dei quattrini, o no? Sarebbe arrivato il momento, sì, ma una volta lui, insomma, la... Tele Lombardia è quel luogo così preciso, insomma, dove queste cose sono avvenute, perché accadono in un luogo, c'è una responsabilità direttoriale, editoriale. D'altra parte, Cicconi in questo è formidabile, non sbaglia un colpo. Cioè, il tuo avvocato dice formidabile, dice. Cicconi l'altra volta ha dovuto spendere 200.000 euro per quello che hanno chiesto Sgarbi Quotidiani. E la stessa cosa tu dici, siccome a te vengono chiesti 30.000 euro, almeno 15.000 da Parenzo ne vuoi. Ma questo non so quale sia la condizione che è stata indicata o che il dispositivo indirizza verso l'innocente Parenzo. Certamente, però lui era lì. Dunque qualcosa deve pagare, dici tu, no? Io credo, non non mi ha smentito di fare. Poi se anche mi ha smentito non doveva invitarmi, è stato imprudente. Non se non volete guai, non invitate Sgarbi, anche noi abbiamo passato. No, giusto. Appunto, sì. A tanti anni di distanza sta compiendo un'altra diffamazione aggravata che registro. Perché... Ma registro non c'è bisogno perché è già registrato. Quale sarebbe la diffamazione? Perché io non devo leggere il dispositivo di quella sentenza dove si parla semplicemente di una condanna di Sgarbi. Fine, io non so poi di altro, non lo so, ma non mi interessa parlarne. Non arriva proprio nulla. No, però scusate, adesso Sgarbi sente anche male. Tagliamo la testa al toro. È un fatto tecnico. Dice Sgarbi, anche Parenzo, che era conduttore di quella trasmissione, è arrivata la sentenza. Non lo so, c'è personale Cicconi, l'avvocato è lì apposta. Certo, allora tagliamo la testa al toro. Il mitico avvocato Cicconi. Avanti. Mitico, facciamo entrare pure il mitico avvocato Cicconi. Lui lo sa, io che c'entro, io. No, vabbè, tu però puoi dire a Parenzo. No, ma io non parlo né con Sgarbi né con Cicconi. No, ma aspetta, un secondo. Non parlo né con Sgarbi né con Cicconi. Vuoi aspettare un secondo? Vabbè, ma è completamente pazzo. Sentiamo l'avvocato Cicconi. È pazzo. Cioè, poveretto. È impazzito Parenzo. È impazzito Parenzo. Vabbè, che vuoi fare? Avvocato Cicconi risponde? Cicconi risponde, chiamatelo. No, ma lo stiamo chiamando. Cicconi è perfetto. Lo so, ma è Parenzo che non vuole rispondere. Avvocato Cicconi? Eccolo, richiamate Parenzo, per favore. Quando uno deve tirare fuori i soldi non c'è niente da fare, eh? Quando uno deve tirare fuori i soldi si comincia subito a preoccuparsi. Allora, avvocato Cicconi, su. Avvocato Cicconi, perché Parenzo deve dare metà di quei soldi? Ma la sentenza, non è vero che non cita la televisione. Il capo di imputazione parla, come diceva Vittorio, sì, di Iceberg trasmissione irradiata il 17/12/2001 da Tele Lombardia. Non c'è dubbio. Quindi il punto è un altro, è che Vittorio pagherà in via solidale, poi i 30.000 euro pagati o che saranno pagati a Caselli, quando Sgarbi li pagherà, farà l'azione civile a Parenzo e a Tele Lombardia per il recupero della somma che lui ha pagato in più, perché è una responsabilità solidale. E il 2043 del codice civile lo dice, Vittorio, anche se non è un tecnico, ha capito. Dunque, la sostanza qual è? La sostanza è che Parenzo e la Tele Lombardia, se non pagheranno, subiranno una causa civile dove Vittorio chiederà il 50% di quanto pagato a Caselli. Ecco, bravo. Capito? Parenzo? È inevitabile. Pronto? È inevitabile. Ha attaccato la linea, una cosa gravissima quella che è accaduta. Però c'è da dire, eh? Che adesso mi viene in mente che siccome ho sentito la data 2001, sì, io a quel tempo ero sottosegretario, quindi chiederei nel ricorso in Cassazione. E vabbè, quello poi sono affari vostri adesso. Quello sono affari. Venga derubricato e passato al Tribunale dei Ministri. Certo, non l'abbiamo. Ma questa sia un'eccezione. Ma adesso quello ve la vedete voi, adesso non ce ne frega niente. Dal punto di vista pecuniario, credo che sia giusto. Un attimo, sentiamo se Parenzo risponde. Vabbè, povero Parenzo. Sì, però io dico questo, no? Scusami, Giuseppe, mi consenti? Sì, dimmi. Tanto Parenzo è registrato, se non sente, ma lui è obbligato a stare in trasmissione perché viene pagato. Lo so, a me lo dici. Perché che fa? Si estranea. Ma infatti è un motivo gravissimo per rescindere il contratto. No, poi viola l'articolo 2 del codice deontologico del buon giornalista, articolo 2 della legge del 63. Bravo. Ma non risponde, ma sbaglia a non rispondere, perché si espone a cose gravissime che possono accadere. Parenzo lascia la zanzara, abbandona la zanzara circondato da Cruciani, Sgarbi e l'avvocato di Sgarbi, che giustamente chiede i soldi perché dice: tu mi hai invitato, hai detto certe cose, io ho detto certe cose, niente, non risponde. Del resto lui era conduttore, quindi non può sfuggire, dopo può anche vincere la causa, però il discorso è questo. Lo so. Adesso risponderà con calma, cari ascoltatori. Parenzo abbandona la zanzara. Dice quella puntata, lui è doppiamente responsabile perché mi incitava. Rideva, era complice. Mentre dicevi delle cose gravissime su Caselli, delle cose. Pensava delle cose gravissime, ma ne era compiaciuto, quindi è ancora peggio, perché se l'avesse pensate potrebbe essere anche, non dico giustificato, ma essere nella stessa linea di pensiero, invece non era un pensiero, era il puro piacere di sentire sputtanato un altro, veramente è una cosa che gli fa pagare tutto. Altro che la metà di 30.000. Vittorio, vedi tu, anche se non sei un tecnico, in via principale chiediamo tutto noi, la restituzione di quello che noi saremo costretti a pagare. Addirittura, ma questo a chi la vuoi chiedere? 30.000? A lui, a Tele Lombardia, a lui 50%, 50% all'emittente. Chiamiamo Parenzo, su. Che... Sì, ecco, mettimi. Ecco, allora, hai sentito che ha detto l'avvocato Cicconi? Non ho sentito cosa dice l'avvocato Cicconi, dico semplicemente questo, che ho ricevuto oggi una strana lettera per interposta persona da questo avvocato Cicconi, perché è benissimo, che mi ha mandato una lettera a un'altra persona che me l'ha girata a me, una strana notificazione di una con richieste. E allora? Io ho preso questa lettera e l'ho messa in mano a un gruppo di avvocati. Gruppo addirittura? Due avvocati che se ne stanno occupando direttamente, risponderanno nella sede appropriata all'avvocato Cicconi rispetto a queste sue che simpatiche richieste. Vittorio, tu mi dicevi prima che addirittura Parenzo incitava, cioè si divertiva quando tu dicevi delle cose contro Caselli. Rideva quello sguardo, quella complice, veramente rideva, era contento, diceva ma cosa dici, tutto così. D'altra parte questo prova che se non era d'accordo su un concetto ancora più colpevole, perché rideva per il puro piacere di sentire insultato un uomo. Capito, Parenzo? Come Caselli. Quindi c'è anche una intenzione peggiore, insomma, proprio il puro dileggio. Secondo Sgarbi dovresti pagare tutto addirittura, 30.000 direttamente. Guarda, io so che è tutto in questo momento in mano ai miei avvocati, quindi faccio i migliori auguri a tutti e... È tutto in mano nei miei ma avvocati. È uno scherzo, cretino! E da oggi pomeriggio siamo d'accordo tutti! La mail è finta, Sgarbi sa tutto, Cicconi è complice! Cicconi è complice, abbraccia allora, tutti, caro Parenzo, allora, abbraccia tutti. Allora posso dirti che è confermato, quelli che chiamano e dicono che sei un coglione, e hanno ragione. Però David, posso chiamarti per nome, ma non avrei mai fatto una cosa contro di te. Allora, mi ha chiamato oggi, spieghiamo tutto dopo il traffico, 800 24 00 24. Oggi Parenzo ha rischiato l'infarto, vi dico solo questo, cari ascoltatori della Zanzara, se voi, oggi ho temuto fortemente, però non ho resistito, la mia vena goliardica non ha resistito, a un certo punto mi ha chiamato dicendo, guarda, mi si è fermato il cuore di fronte a una carta in cui c'era scritto che dovevo pagare 15.000-20.000 euro, non so, mi si è fermato il cuore. Io devo dire, in quel momento mi sono un po', io lo volevo dire, però poi non ce l'ho fatta. Allora, sei vivo, David? Sì, ma è uno scherzo degno dei migliori amici miei. No, adesso proprio tu che fai gli scherzi, che fai quella vocina così un po' abbattuta, un po' arrabbiata, accetto tutto, no, ma va benissimo, accetto tutto. Mi sembrava che l'avvocato, voglio dire, che la lettera che l'avvocato Cicconi, bravissimo, ha mandato. Io ho messo tutto in mano comunque gli avvocati. Sì, ma tu ci hai creduto, inutile che dici adesso che ti sembrava, certo, che la lettera è strana. Ci hai creduto, hai dato tutto in mano all'avvocato, anche all'avvocato della Valle. L'avvocato della Valle. Ho chiamato mio padre subito per la questione, tutte le questioni civili, l'avvocato Parenzo. Ho dato tutto in mano subito all'avvocato Parenzo, così non c'è neanche da pagare la parcella. E quindi era già tutto, era tutto in mano dell'avvocato Parenzo. Poi c'è tutto un pool di esperti che sono stati consultati. Ma dimmi un po' cosa racconta agli ascoltatori quello che hai detto a un certo punto. No, racconta. La cosa è molto semplice: quel coglione di Cruciani alle 4 del pomeriggio mi gira questa mail che dice: guarda, ti giro questa cosa dell'avvocato Cicconi, in cui c'è una richiesta di pagare il 50% delle spese processuali di Vittorio Sgarbi per quando partecipò alla mia trasmissione ad Iceberg. E i veicoli sorcavelli. Avvocato, mi dica, diciamo subito a Parenzo, oggi lei mi ha chiamato, ha detto dovremmo fare uno scherzo a Parenzo, e poi si è inventato questa lettera. Io, è simpatico Cicconi. No, Cicconi è numero uno assoluto, grande fumatore di sigari, grande bevitore di champagne, numero uno assoluto, mi ha dato questo spunto e io non ho resistito. Questa lettera è scritta benissimo. Avete fatto benissimo, allora. Avvocato, si pente di questo scherzo, guardi che stava per crepare questo qua, Avvocato, Vittorio, dimmi, che c'è, Vittorio? No, sto pensando che potrebbe anche essere uno scherzo dello scherzo, Cioè? Sì, che adesso che mi ha fatto pensare, sicuro, si poteva veramente fare la causa a Tele Lombardia. Possiamo dire no, vabbè, adesso... Forse è uno scherzo. Allora, però mi dovete promettere... Mi avete convinto, guarda. No, no, che ti abbiamo convinto, mi dovete promettere, anzi Vittorio mi devi promettere, perché così lo rassicuriamo, eh. Primo, era uno scherzo. Secondo, se anche ci fosse un cavillo da qualche parte eccetera, non gli chiedete un euro, perché questo se no me crepa. Di crepa metteremo sicuro il suo posto, che per radio può anche fare meglio. Vabbè, vabbè. Grazie Vittorio. Ciao. Ciao avvocato. Ciao. Mitico, non c'è più, è caduta la linea. Davide, sei vivo? Beh, adesso sì, diciamo. Dai, su. Dimmi che è stato fantastico. No, meraviglioso, adesso lo posso dire meraviglioso, sicuramente. Io guarda, mi sono pentito solo di una cosa, mi sono pentito di non aver registrato le nostre telefonate del pomeriggio. Sennò ti giuro che qualche pezzo lo mettevo. Quel qualche pezzo delle telefonate del pomeriggio lo mettevo. Dimmi la verità. È vero, cioè a un certo punto ho avuto una sensazione incredibile, come quando vai sulle montagne russe, sali molto in alto, poi c'è l'avventura, no, che scendi giù in picchiata, ti senti il cuore in gola. Mi si è fermato il cuore per qualche secondo, veramente è una sensazione pazzesca. Poi mi hai detto, ho chiamato l'avvocato della Valle, questo è pazzo, l'avvocato Cicconi è pazzo, ma cosa vuole questo stronzo, adesso si becca una querela. Avvocato, me ne ha dette di tutti i colori, l'avvocato Cicconi me ne ha dette di tutti i colori, Parenzo, su di lei. Vabbè, la saluto. Sì. A presto. Dove cavolo è che non si sente niente? Dove è finito pure lei? Vabbè. Siamo qui, Stefano da Firenze. Buonasera, Stefano. Che meraviglia. Buonasera, Luciani. Dica. Nel suo impegno per i diritti degli omosessuali, che va benissimo, sono d'accordo, però volevo farvi presente di considerare una cosa, che ci sono degli omosessuali in Italia, o anche amici miei, che non, proprio per vivere la loro diversità, non gli interessa affatto questo riconoscimento, cioè gli leva la libido il fatto di essere omologati al matrimonio eterosessuale, all'adozione dei bambini. Ci sono anche questi in Italia, non tutti gli omosessuali in Italia sono favorevoli a essere omologati alle coppie eterosessuali. Di metterlo, questa cosa le dico, in tutto il dibattito che lei fa. Guardi, io non so come si possano chiamare, bisogna arrivare alla conclusione, bisogna arrivare a una situazione in cui ci siano due donne o due uomini che vanno davanti al sindaco, davanti al funzionario del comune, a dire ci sposiamo, vuoi essere mio marito, vuoi essere mia moglie, quello che è, se si tratta di donne. Bisogna arrivare a questa situazione con tutto quello che ne discende, non le altre buffonate, le cose che si vogliono fare, i diritti, queste cose qui, sono tutte cose che sì, si possono fare, ma insomma la sostanza è quella lì. Bisogna arrivare a quella situazione di equiparazione, questa è la mia posizione. Ma guardi, io per esempio sono uno studioso di Pasolini. Pasolini, se fosse lì, non sarebbe d'accordo. E vabbè, ma se Pasolini non è d'accordo, chi se ne frega? Cioè, non è che sia l'unico punto di riferimento. No, vabbè, diciamo un punto importante della nostra cultura. Ma no, insomma, cioè, secondo alcuni sì, per altri no. Comunque, non è che siccome l'ha detto Pasolini va tutto bene. Marco da Reggio Emilia, buonasera, Marco. Sera, vada, che c'è? Che ridi, Parenzo? Che ridi? No, sto ripensando alla goliardata che hai fatto da casa. Comincio ad avvertire tuo padre ed altri avvocati che non c'è più nulla da fare. Va. Marco da Reggio Emilia, io devo registrare oggi pomeriggio le nostre telefonate, purtroppo mi sono ricordato dopo. Marco. Luciani, sembra di essere tornati a un paio d'anni fa. Voglio dire, i tipi sono sempre gli stessi. Dell'Utri, Sgarbi, Minetti, ma anche Emilio Fede, e poi siamo a posto, insomma. Il problema è che se continuate a enfatizzare questi temi, i grillini vanno notte. Ma non lo so, guardi, enfatizzare questi temi è quello che ci propone l'attualità ogni giorno, di questo parliamo. Dell'Utri oggi l'abbiamo invitato perché c'è stata la vicenda di Palermo, queste nuove accuse ridicole, diciamo la verità, di estorsione a Berlusconi, per cui guardi, io parlo di quello che c'è, di quello che ci può essere, quello che ci può essere è compito di altri. Pasquale da Cosenza. Pronto, buonasera. Dica. Buonasera, prima di intervenire posso sapere se sei laziale o romanista. Ma chi se ne frega, sera. Pasquale, sono tifoso della Lazio, non è importante in questa trasmissione. Vabbè, no, così sanno i romani se sei laziale o romanista. Vabbè, ma lo sanno tutti, non si preoccupi. Ah, lo sanno tutti, sì. Sei famoso. Tu non... Ma non sono famoso, non è questione di... Ma chi sta in televisione e in radio, qualche successo se l'avrà. Vabbè, Pasquale, andiamo veloci, su. Va bene, volevo dire una cosa, a proposito della regione Sicilia. E ho sentito poco tempo fa che c'è stata la conferenza stampa del presidente Lombardo, sì. E ha detto che secondo lo statuto siciliano non si può commissariare la regione Sicilia, sì. Purtroppo lo statuto, Sì, ma lei ha ragione, Pasquale. Purtroppo. Purtroppo il problema è che le elezioni in Sicilia non servono a nulla. Bisognerebbe commissariare cinque anni la Sicilia con un super prefetto, con un super funzionario che mette le cose a posto. Poi si può tornare a una normalità democratica. Questa è la mia idea, però non si farà mai. E dunque ci saranno le elezioni, continueranno gli sperperi, i soldi dello Stato che mette i soldi per ripianare, eccetera, eccetera. Francesco da Vibo Valentia, però le parole di Lombardo di oggi vanno risentite quando manda a morire ammazzati tutti. Fatemi risentire Lombardo, che oggi se l'è presa con Universo Mondo, con Roma genericamente, poi con i giornali, ma se l'è presa anche con Lobello per le accuse che ha fatto sul default della Sicilia, sulla Sicilia che potrebbe andare in bancarotta. Lombardo: se lor signori da Roma o qualche pseudo industriale pretende che io licenzi questa gente o la ammazzi, vada al diavolo, vada a morire ammazzato chi che sia. Io non metto sulla strada questa gente. Luigi da Viterbo. Pronto, buonasera. Dica. No, ecco, queste ultime parole di Lombardo fanno un po' tenerezza. Cioè, tu assumi addirittura tenerezza. Tenerezza nel senso ironico. Tu mi assumi 1 milione di persone per i tuoi buoni motivi che tutti. Guardi che per essere precisi, Lombardo, Lombardo forse è il meno responsabile del dissesto della Sicilia. Ecco, noi abbiamo avuto l'amico l'ex sindaco di Palermo che ha fatto non so quanti milioni di buffi, Gammarata, l'abbiamo fatto tecnico al Senato con la Spendi Review, quindi non ci meravigliamo del... Poi per fortuna appena la cosa è venuta fuori ha lasciato l'incarico. Lì ci sono dei personaggi che assumono di tutto e poi dice non lo sapevo, non ero a corrente. Però io volevo intervenire su un altro tema. Su che cosa? Stasera parlavamo di Caselli insultato da Schiappi, no? Io ho sentito Dell'Udi che ha dato il pazzo a Ingroia. Sì. Come uno viene accusato di qualcosa, cioè chi viene accusato inizia a tirar fuori le cose più assurde. Io le dico sinceramente, come cittadino italiano sono preoccupato. Le istituzioni, chi in testa dovrebbe vigilare e dare aiuto a questi giudici che stanno facendo il loro dovere. Ma non c'è da dare aiuto ai giudici, non c'è, ma ho capito, non c'è da dare aiuto, i giudici devono fare il loro mestiere, alcuni secondo me parlano troppo, dopodiché a noi fa comodo che parlino troppo perché sono qui, perché vengono qui anche in questa trasmissione. Ci sentiamo domani, sentite la musica di sottofondo che ci accompagna all'addio. Parenzo, sei vivo, meno male, a domani 18:30. Sono tutti magnacci, magnoni e ladri, ecco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E ancora a casa, Simo.